fare. L'attualità, anche d'estate, di Alessio Maurizi. Che ironia, questa malattia, che non mi fa dormire, che non va più via. Che ironia, sentirsi dire che non c'è niente da fare per guarire. Non c'è dottore, non c'è dottore, non c'è dottore, non c'è dottore, non c'è dottore, non c'è dottore, non c'è dottore, non c'è dottore. L'eccesso diagnostico per motivi derivati dalla medicina difensiva provoca in Italia 13 miliardi di euro l'anno di risorse buttate via, che potrebbero essere impiegate per tutte le necessità dei cittadini. Chi è? Corsetti Remo, artrose colonna vertebrale. Sì, dove hai fatto le altre? Radiologo con Filopanti, mi ci ha mandato lei. E certo, quella che avevi non si vedeva niente, vedi quarta e quinta vertebra, vedi com'è chiara? 10.000 lire, chiara sì. Sì, piega un po'. Oh! Traumatologico, gli fanno il busto. Ma col busto non posso più lavorare. Che lavoro fai? Sono impiegata ai posti, ufficio di. E beh, timbri in piedi. Te lo ricordate? Alberto Sordi, buonasera cari ascoltatori, buonasera da Alessio Maurizi, ben ritrovati con Si può fare, 18 20 30 800 24 00 24. Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, buonasera. Buonasera. Se lo ricorderà lei, sì, sicuramente, questo Alberto Sordi. Ma è molto rapido, poi io sono di una generazione che... Lo so, e io ci rientro anch'io, cioè a quell'età forse ero molto piccolino, o no, forse non c'era nemmeno, perché stavamo fin degli anni 60 addirittura, credo, questo qua, o 70, no, più 70, forse più 70. 70. Il medico della mutua. Insomma, parliamo di questo anche con lei, perché tra l'altro proprio in queste ore si sta votando il decreto sugli enti locali, che prevede tagli, ahimè, per le regioni di quanto, Emiliano? Di 2,3 miliardi di euro. 2,3 miliardi di euro, che cioè, la spending review... In realtà sì. Non sappiamo se il governo si è perfettamente messo d'accordo, nel senso che il ministro della Sanità ha continuato a dire che non sarebbe stato inserito nel decreto enti locali, e invece, se ho capito bene, io purtroppo sto lavorando, quindi io pure devo dire che ho fatto fatica a capire. Invece è inserito, quindi il governo lo ha inserito, o meglio, una parte del governo lo ha inserito e l'altra parte, il ministro della Sanità, non era molto convinto. Sì. Già questo spiega tutto. Vabbè, credo, questo però succede spesso, cioè succede spesso che insomma, i ministri scalpitano. Il ministro competente, beh, insomma, non sa bene come si comporterà il resto del governo. Sì. In una questione di tagli di risorse, insomma, no, succede che i ministri non, diciamo, non gradiscano i tagli ai loro dicasteri, invece i governi, i ministri dell'economia li... Adesso voglio essere particolarmente cattivo, qui non sì. È un problema di gradimento, è che il ministro non era fino a poche ore fa sicuro se nel decreto enti locali sarebbe stato inserito o meno il taglio, che è una cosa un po' diversa. Sì, è una questione, diciamo, di metodo. Diciamo, una volta per una cosa del genere un ministro... Si sarebbe anche dimesso? Probabilmente, perché si tratta di passargli sopra a caro armato. Ma quindi se così fosse, secondo lei la Lorenzin dovrebbe dimettersi? Non ho detto questo, dico che una volta succedeva che un ministro si sentiva un po' trascurato, diciamo, dal resto del collegio. Ma fra l'altro non si capisce se questi tagli che riguardano la sanità riguardano solo la questione famosa dei costi delle siringhe, che devono costare uguale in tutta Italia, cioè laddove costano troppo si devono abbassare questi costi, o se c'è anche dell'altro. Lei l'ha capito? No, io credo che si tratti di un taglio, come si dice, lineare, vale per tutti e senza particolari distinzioni tra regioni virtuose e regioni non virtuose, nel senso che chi come la Puglia non è mai stato commissariato per ragioni di sbilancio del bilancio della sanità viene colpito, come chi invece ha determinato un buco nel bilancio sanitario e per questa ragione è commissariato dal governo. Però la sua è una di quelle regioni che è messa male quanto a conti della sanità e a livelli di standard, perché io vedo l'ultima classifica l'eredità che le ha lasciato Vendola, lei chiaramente è su da poco. No, lei forse fa riferimento ai livelli essenziali. Ai livelli essenziali, sì. Cioè, dal punto di vista finanziario è tutto in ordine. Il problema è che siccome la Puglia fa sempre le nozze con i fintech, devo dire, non solo con riferimento alla sanità, ma per tutti gli altri comparti della pubblica amministrazione, è chiaro che con il denaro che abbiamo a disposizione, 500 milioni di euro in meno rispetto all'Emilia Romagna a parità di abitanti, è chiaro che 500 milioni ogni anno in meno fanno una differenza enorme. Faccia conto che l'Emilia Romagna ha un budget da 7 miliardi e 900 milioni, noi ne abbiamo uno da 7 miliardi e 3, quindi la differenza è molto, molto forte, significa migliaia e migliaia anche di addetti in meno. La sanità pugliese è anche molto poco costosa perché ha pochi addetti. Ma questi tagli alla fine sono tollerabili in senso stretto, cioè in senso che una regione come la vostra li può tollerare o sono intollerabili? Ma molto semplicemente, un po' come per le radio o per i giornali o per le televisioni, se ti tagliano i soldi ti devi adeguare, anziché fare 10 servizi ne fai 3, anziché fare una trasmissione con un ospite importante ti devi accontentare di Emiliano. Quindi in qualche maniera rimediare. Che per noi è il massimo, per noi è il massimo. La ringrazio, mi aspettavo questa sua incoraggiamento. Veniamoci incontro, vogliamoci del bene. Quindi voglio dire, tra di noi. È chiaro che un sistema sanitario può coprire, devo dire alla fine forse con un budget superiore si finisce persino per risparmiare, perché se io ho dei livelli essenziali di assistenza più elevati abbasso la cosiddetta mobilità passiva, cioè sono meno i pugliesi che vanno a curarsi fuori dalla Puglia e addirittura divento competitivo perché attraggo dalle altre regioni, se sono eccellente in alcuni settori, pazienti, e questo aumenta il mio budget. Questo sistema che è competitivo non è però uguale e diventa sempre meno uguale se ci sono i tagli lineari come quelli che il governo sta realizzando, perché non distinguiamo tra coloro che hanno molto e coloro che hanno poco, e tra coloro che si comportano bene e coloro che si comportano male. A questo proposito Zai ha detto in un'intervista ieri pubblicata oggi che per lui bisognerebbe mandare dei commissari, degli ispettori veneti, dove i conti sono in regola e c'è quello che diceva lei, cioè persone dalle altre regioni che vanno a curarsi lì perché evidentemente c'è una sanità d'eccellenza, e così si sistemerebbe tutto. Lei ci starebbe a ricevere gli ispettori, i commissari di Zai? Ma guardi, purché siano bravi, io li prenderei da qualunque paese del mondo, anche se fossero neri di pelle. Io, a differenza di Zai, sono convinto, per esempio, che i medici cubani siano bravissimi e che potrebbero essere utili anche loro. Chiunque abbia delle buone idee può aiutare. Cioè, i medici cubani come quelli veneti, secondo lei? Beh, i medici cubani sono straordinariamente bravi. Sì, è vero con che. Pochissimi soldi. Io sono stato in Sud America, è vero che è un, immagini è un che faro i medici per tutto il Sud America. Vanno in tutto il Sud America, addirittura a sostenere i sistemi sanitari degli altri paesi. Eppure fanno tutto con pochissimi soldi. Quindi voglio dire, è anche vero che non sempre la qualità di un sistema sanitario è direttamente corrispondente alla quantità di denaro che si investe. Rimane però una certezza che se queste differenze di investimento sono perenni e corrispondono allo storico della differenza tra nord e sud, è chiaro che il sud è in difficoltà sistematica, cioè tutte le regioni del Mezzogiorno hanno, forse con l'eccezione della Campania, hanno normalmente risorse molto inferiori a quelle del centro-nord, anche perché obiettivamente il nostro PIL, il nostro contributo tributario è inferiore, e questa cosa noi la paghiamo in termini di erogazioni dal Fondo Sanitario Nazionale. Quindi però i conti della sanità in Puglia sono in regola? Sì, noi non siamo mai stati commissariati per ragioni di sbilancio dei conti. Sì. Abbiamo sfondato il patto di stabilità nel 2006 e nel 2007, il bilancio ordinario, pensando in questo modo di aumentare alcuni servizi pubblici. E in realtà poi il ministro Tremonti, con una manovra ex post, riuscì a utilizzare questo sfondamento del patto di stabilità per mandarci in piano di rientro anche sulla sanità, che pure era in equilibrio finanziario, e questo naturalmente ha bloccato ad oggi 1700 assunzioni in Puglia, che dal punto di vista dell'occupazione ci avrebbero fatto comodo e avrebbero probabilmente portato la Puglia in quella classifica dei LEA che lei ha citato, ci avrebbero portati un po' più su. Però senta, il paragone con i medici cubani per il Veneto è un po' ingeneroso o no? No, guardi che i medici cubani sono prestigiosissimi, io sto parlando dei medici. Però se parliamo di un'organizzazione, di un sistema sanitario complesso come quello di una regione italiana, forse paragonarlo, non lo so, Beh, probabilmente lei non è mai stata a Cuba, io sì, le garantisco che i medici cubani sono stato, però non sono mai entrato in un ospedale cubano. Hanno delle università di primo ordine, sono il vanto di tutta la nazione, sì. E sinceramente non c'è alcuna ingenerosità. Non ha nulla da invidiare. Poi io sono un uomo di sinistra e sinceramente quando cito Cuba... Lo fa con orgoglio. Certo. No, ecco, lo faccio con orgoglio, non lo faccio come certo. Cioè, la sanità cubana non ha niente da invidiare a quella veneta. Beh, chiaramente non hanno, immagino, le stesse apparecchiature tecnologiche che ha la, sì. che ha la sanità veneta, questo non c'è dubbio, però hanno, ripeto, una qualità del singolo laureato in medicina che è assolutamente paragonabile a quella dei medici occidentali. Senta, io devo fare un'altra domanda, mi dica lei se preferisce fargliela subito, veloce, anche nella risposta, perché so che lei ha un impegno, oppure se ci concede 2 minuti perché avremo la pausa per il traffico. No, se vuole farmela subito io sarò rapidissimo. Ah, va bene, allora la domanda è questa, perché la Lorenzin parla anche di questa questione della medicina difensiva. Ora, io pensavo fino ad oggi che la prevenzione fosse un valore positivo, invece sembra quasi che, perché di questo si parla, no? Taglia la medicina difensiva. Che cos'è sta medicina difensiva? No, la medicina difensiva non è la prevenzione. La prevenzione è ovviamente tutto ciò che corrisponde alla politica. Nel senso che se tu sei bravo, produci energia, cibi senza far venire tumori alle persone, questa è prevenzione. La medicina difensiva è il timore dei medici di essere indagati dalla magistratura per avere omesso, per esempio, una radiografia o una PET. E quindi, però scusi, non è meglio fare una radiografia in più piuttosto che rischiare di farne una in meno? Però questo ovviamente è la medicina difensiva. Quando questo fenomeno diventa patologico e io faccio PET o risonanze magnetiche solo perché voglio evitare qualunque tipo di rischio, ho uno sfondamento dei budget sanitari. Capisco perfettamente il ragionamento economico. Io non conoscevo questo, diciamo, concetto di medicina difensiva, però mi domando e le ridomando: non è meglio fare una PET in più piuttosto che una in meno e rischiare di non scoprire un tumore? Sì, questo è obiettivamente il concetto proprio della medicina difensiva. C'è però un limite, perché se poi noi mandiamo a rotoli il sistema sanitario nazionale, poi le PET non le facciamo a nessuno, quindi bisogna trovare il punto di equilibrio economico. Un punto di equilibrio, anche perdendo qualche punto sulla prevenzione. L'appropriatezza. Però anche perdendo qualche punto sulla prevenzione, noi in Italia siamo una delle sanità che da questo punto di vista, lo dice l'OMS, per esempio lo screening antitumorale ha dato grandi risultati e quindi... Dobbiamo continuare a farlo? Il sistema sanitario nazionale è uno dei migliori del mondo, questo non si può tacere, anche dove ci sono problemi, questi problemi ovviamente sono comunque dentro un'ottica complessiva di eccellenza. Il Veneto è una regione importantissima, quindi Zaia fa benissimo a difendere il suo sistema nazionale sanitario, però fanno benissimo anche quelli che hanno meno performance ma che vogliono raggiungere alcuni risultati. È ovvio che per raggiungere alcuni risultati bisogna cogliere risultati manageriali importanti, ma anche attraverso l'investimento del denaro, che non può essere tagliato in maniera da non distinguere tra le regioni che si comportano bene. Per esempio, la Puglia ha attuato un profondo rinnovamento della sua organizzazione, ottenendo risultati e risparmi importantissimi. Siamo usciti anche dal piano di rientro in modo assolutamente brillante, e adesso un colpo del genere rischia di frustrare tutte le nostre aspettative, per esempio finalmente di dotare i nostri reparti degli infermieri necessari, che poi alle volte sono più importanti gli infermieri dei medici. Questo non dico anche dei vero. Medici, ma servono tutte e due sicuramente, delle attrezzature o degli investimenti in impianti. Staremo a vedere, perché stasera si vota la fiducia, poi conosceremo forse anche meglio i contenuti di questo decreto e quali tagli ci saranno, se ci saranno, sulla sanità. Grazie, buona serata. Grazie, Michele Emiliano. Buona serata. Traffico. Buona serata. Che c'è? Gola, vedere. Aia! Come rossa, fumi? Sì, è meglio. Già litigo dalla mattina alla sera con mio marito, che fuma tanto. Ecco, è questo. Vuoi guarì? Sì. Non litiga più con tuo marito. Che devo fare? Compri il pacchetto di sigarette. E li sciacqui? Falli fa lui. Ciao. Si può fare. L'attualità, anche d'estate. L'ottimista nasce in piedi, di sempre. mi sento assolutamente solido e sento che c'è la solidità del governo che giustamente vuole degli obiettivi, gli obiettivi ci sono, noi li raggiungeremo tutti insieme. Però devo dire che non immaginavo di trovare le casse vuote, un disavanzo di quasi 1 miliardo, la criminalità organizzata, la corruzione. Credo che insomma l'unica cosa che mancasse sul percorso del Campidoglio fossero le mine antiuomo, quelle non c'erano, ma tutto il resto c'era. Diciamo, lo fa sorridere Marino che dice che si sente solido, perché ovviamente anche dentro di sé ci avrà qualche incertezza, diciamola così con un eufemismo, perché insomma in questi giorni è stato un tiro al piccione contro di lui, capo espiatorio ovviamente il sindaco della città per tutti i casini, possiamo dirlo, i casi di cronaca negativi, le immagini che sono girate nel mondo, Roma sono io, bla bla bla bla bla. C'è però un casino che non è successo a Roma, e già questa è una notizia. È un'altra però figuraccia, sì, questa sì, italiana. Un aereo che doveva decollare da Firenze per Palermo ieri sera alle 21, 20 ore di attesa, e poi tutti trasportati all'aeroporto di Pisa, l'aeroporto Galileo di Pisa, e con una partenza appunto 20 ore dopo, alle 4 di questo pomeriggio sono partiti i passeggeri dopo malori, disagi, gente che ha improvvisato un'occupazione dell'aeroporto. Insomma, per una volta non è Roma, non è Pompei, è la civilissima Firenze a avere creato disagio a questi turisti. Capita, capita anche questo. E noi questa sera, cari ascoltatori, vi chiediamo di raccontarci le vostre disavventure durante le vacanze, negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie. Qualche volta dalle disavventure può nascere anche qualche cosa di positivo, perché no? Che ne so, per esempio, di fronte a una disavventura come quella che è capitata ai passeggeri di Firenze, avete, che so, conosciuto l'amore della vostra vita, perché capitava lì in quel momento, oppure avete lasciato per sbaglio vostra suocera all'autogrill, questa è una grande liberazione, oppure che ne so, avete perso il cellulare, via, per tutte le vacanze nessuna scocciatura, nessuna telefonata. 800 24 00 24, aspettiamo i vostri racconti, il racconto che ci piacerà di più anche questa sera vince un piccolo premio che vi racconteremo tra poco. Adesso cosa abbiamo ancora? Dobbiamo ascoltare ancora qualcosa, chiedo in regia. No, non dobbiamo ascoltare nulla. Allora, andiamo a sfumare con il medico della mutua. No, lo sentiamo, medico della mutua, non c'entra nulla. Sì, sentiamo, vai. No, non ce l'abbiamo, medico della mutua. Non gli piace in regia. Allora, ascoltatori, eccolo. Marco dalla provincia di Pesaro. Buonasera e benvenuto. Buonasera a lei. Prego. Grazie per l'opportunità innanzitutto. Due cose velocissime. La prima, visto che i dottori cubani sono i migliori al mondo e spendono pochissimo, perché non facciamo in modo che lo siano anche i medici italiani? Così ne basta, anche, ne basta la metà e non si lamenta più nessuno. Ma a prescindere da questo... No, non ho capito, non ho capito la battuta però. La spieghi un po' meglio? Scusi. I medici cubani sono, sì, i migliori al mondo e spendono pochissimo. Sì. Curano le persone. Cioè lei dice, allora bello, facciamolo anche noi, facciamo come loro. Spendiamo poco, nulla. Certo. Basta avere un minimo di buon senso. Comunque. Beh, questo però, guardi, la sua è una battuta, però credo che in un certo senso quello che vuole fare la Lorenzin è questo, cioè ridurre le spese mantenendo i livelli di cura. Io ho espresso qualche perplessità che diminuendo esami di prevenzione dipende dal buon senso e soprattutto diciamo da un recupero di questa grandissima crisi di etica che c'è in questo paese. Anche tra i medici, perché poi dice, c'è sempre il solito trovare il capo espiatorio, in questo caso Roma. Infatti volevo intervenire su questo, cioè che c'è l'immondizia, che è tutta sporca, eccetera eccetera. Io giro parecchio l'Italia per lavoro, sono spesso a Milano, e al di là del Duomo e del quadrilatero classico eccetera, come esci un attimino al di fuori di queste situazioni, cioè c'è degrado anche lì, bidoni pieni di immondizie, quindi tutte le immondizie per terra, cartacee, bottiglie di plastica eccetera eccetera. Ma dipende da noi italiani, perché è proprio una nostra mancanza di senso etico, di civiltà, cioè non siamo caduti proprio, conta solo ed esclusivamente il Dio denaro, è finita lì, cioè se li hai, li hai, se non li hai, è finita lì. Ma questo è sempre stato così secondo lei, o è una cosa che secondo lei è andata peggiorando in questi anni? È andata peggiorando, ha avuto un trend positivo meglio della borsa, se l'avesse avuto la borsa un trend così positivo a quest'ora la crisi non sapevo neanche sì. cosa fosse. C'è qualcosa dire, che la tranquillizza, cioè, in tutto questo, oppure diciamo una visione? Mi piacerebbe che, per dirti, siccome vengono sempre fuori grandissimi personaggi noti, cerca un po' magari che, visto che da tempo che non se ne parla di loro, qualcosa almeno riescono a, un attimino ad attrarre un po' anche l'attenzione, mi piacerebbe che magari la RAI facesse qualche pillola per insegnare agli italiani di non buttare via limoni dalla fine della macchina. Lei si è mai fermato? No, non ho capito, scusa, si è abbassato un attimo l'audio della telefonata. La RAI dovrebbe insegnare agli italiani che cosa? Ma alcune pillole di civiltà, di etica, non buttare via i immondizie dalla macchina, sì. tenere il tuo sacchettino, quando arrivi ti fermi, fai l'indifferenziata, cioè queste cose qua, cioè, in questo servizio pubblico proprio della RAI non lo vedo assolutamente, a parte le devine, tanga e perizoma. E voglio dire, cioè, potuto, bisognerebbe, allora... Sa, a me è capitato un giorno, a me è capitato, racconto questo, Marco, le racconto questo episodio, ma a proposito del fatto dei rifiuti, no? Mi è capitato di attraversare, passare lungo una strada, a fianco a una ferrovia, e vedere un'auto che stava, una persona che da un'auto stava tirando fuori dei barili, dei bidoni di rifiuti di edilizia, credo calcinacci, eccetera. E ero tentato di prendere la targa per segnalare questa cosa a qualche autorità, perché non si fa, no? Di lasciarli in mezzo alla strada. Poi le confesso che ho avuto un abbassamento della soglia e non l'ho fatto, poi la macchina se n'è andata e ho perso un'occasione, così. Marco? Ho visto sì. e ho segnalato a chi dovere, chi stava scaricando il divano, il frigorifero. Ah, lei l'ha fatto, eccetera. Lei l'ha fatto, bravo. C'è anche un numero verde, vengono a casa a prendertela, sei anche un pirla, scusa, perché sì, è vero. La fatica di caricartela in macchina, di portarla al bidone, cioè, voglio dire... fa la figura del pirla, si fa sempre tempo, no? Quello è il fatto. E comunque bisognerebbe veramente che la RAI... Lei che lavoro fa, Marco? Io sono imprenditore, sono un... diciamo, produco vino e mi occupo di finanza. Che vino? Che vino? È un Sangiovese Superiore, è un vino che poi ho chiamato Pagadebit, che è un vecchio vitigno scordato, diciamo, io sono romagnolo. È un vino bianco e un Sangiovese DOC. Alla salute, grazie, buona serata. Grazie a lei, arrivederci. Si può fare l'attualità anche d'estate. Io, buonasera ad Alessio Maurizi, cari ascoltatori. 800 24 00 24, vi aspettiamo questa sera, nella quale si voterà il decreto enti locali, almeno la fiducia. Cominciano ad affiorare anche i contenuti di questo decreto, sapremo se ci sono questi tagli e che cosa prevedono esattamente alla sanità regionale. Da qua siamo partiti con l'intervista a Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, che ha anche paragonato, diciamo azzardando abbastanza e facendo infuriare qualche ascoltatore, all'SMS 349-238-6666, la sanità, diciamo, italiana, quella del Veneto, gli ispettori del Veneto, ha detto: ma porte aperte a tutti, anche ai medici cubani, perché la sanità a Cuba funziona, ha detto con orgoglio Michele Emiliano. Poi, giornata decisiva in qualche modo anche per Roma, abbiamo sentito la voce di Marino che annuncia il rimpasto in giunta, ma questa sera vi aspettiamo all'800 24 00 24, anche per raccontarci le vostre disavventure, per esempio nei luoghi di vacanza, disavventure dalle quali possono a volte anche, diciamo, sorgere cose positive, per esempio come conoscere l'amore della vita, chi lo sa, oppure altre cose strane. Chi abbiamo? Ascoltatori, facciamo, anzi no, titoli Sky TG24, poi ascoltatori, un attimo di pazienza, tra poco. Rimpasto in Campidoglio, Marino presenta la nuova giunta, Renzi ha ragione, dice, ma ci giudichi sui fatti. Causi e vice sindaco, in giunta anche l'ex sottosegretario Rossi Doria e Trasporti Esposito, paladino della TAV. Crollo in una chiesa vicino a Campobasso, un operaio morto e due feriti, erano in corso lavori di restauro. Vasti incendi in Sardegna, case evacuate in Gallura, in azione di Canadair, turisti bloccati sulle spiagge. via pena capitale per Saif al-Islam, il figlio dell'ex Rais Gheddafi condannato per crimini contro l'umanità. Video con droga e prostitute, scandalo a Londra, si dimette Lord Sewell, era il controllore della Camera Rossa. Tania Cagnotto fa grande l'Italia e oro nei tuffi dal trampolino di un metro ai mondiali di nuoto in Russia. Surfista italiano Niccolò Porcella travolto da un'onda gigante a Tahiti, tanta paura ma nessuna conseguenza. Allora, Pietro da Venezia, buonasera. Buonasera. Prego. Allora la mia storia è molto, molto semplice. Sì. Io ero un militare e avevo una specie di morosa in un'isola greca. Come una specie di morosa? Cos'è avevo una specie di morosa? Avevo un amore. Un amore, aveva un amore. Un amore estivo. Avevo 19 anni, un amore estivo in un'isola greca e con la vacanza militare sono andato in Grecia, che già all'epoca era un reato fare. Cioè, scusi, lei è stato in vacanza in Grecia, si è fatto l'amorosa, poi è tornato in Italia a fare militare. Esatto. E poi quando ero militare con la licenza che ti davano i 10 giorni. Però famosi, non si poteva espatriare, o sbaglio? Appunto, non si poteva. E io l'ho fatto lo stesso. Cosa fa l'amore, eh? Che forza straordinaria. Sì. E allora sono andato in questa isola greca, dove il papà, sono andato a casa di questa ragazza. Sì. Dove il papà di questa ragazza una sera mi ha preso e mi ha detto: tu è meglio che da qua te ne vai. Ah. E quindi io mi sono trovato da solo al porto e sì. Perché dovevo poi in qualche maniera tentare di rientrare in Italia. Stretto tra l'incudine del militare e il martello del padre della fidanzata. Perfetto. Un casino totale. Esatto. E nell'aspettare la nave che avrebbe dovuto portarmi in Italia, sì. Ho conosciuto una bellissima ragazza che... Un'altra, ma lei è un Latin lover. No. E ho conosciuto questa bellissima ragazza che tra l'altro era straniera. Sì. Di dove? Un'italiana. Di dove? Tedesca. Sì, e ci siamo quindi scambiati gli indirizzi, ti vengo io a trovare, ti vieni a trovare. Insomma è nata una storia che dura da 32 anni. Ah, è perché è diventata sua moglie? Certo. No, straordinario. Scusi Pietro, allora, lei è andato a trovare la sua fidanzata in un'isola greca, il padre di lei l'ha buttato fuori di casa e in queste circostanze al porto ha conosciuto... Ma lei ha una forza d'animo straordinaria. Cioè, invece in quel momento, invece di buttarsi in un bar e bere litri di birra o di vino per dimenticare, lei... E come l'ha incontrata? Cioè, com'è stato il momento che l'ha conosciuta, se ce lo può raccontare? Sì, io ero lì in questo porto e con la scusa che parlavo un po' di tedesco oltre che bene l'inglese. C'eravate in coda alla biglietteria tipo? Sì, una cosa così. No, glielo chiedo perché magari a qualcuno può servire un consiglio di un super seduttore come lei. Ho conosciuto queste due ragazze che erano due sorelle, delle quali una mi piaceva più dell'altra e ho rinunciato a fare il biglietto per rientrare in Italia, visto che avevo ancora 3 giorni per stare lì. Siamo stati lì 3 giorni e poi ci siamo rifrequentati al rientro. E al rientro poi in Italia è andato tutto bene, non l'hanno arrestato, visto che era espatriato senza permesso. Come si chiama sua moglie, Pietro? Vilma. Vilma, saluti anche a Vilma, grazie, buona serata, bellissima storia. Bellissima storia, racconti così, vedi, già Pietro si candida sicuramente per vincere il premio di questa sera che è la mini guida di Expo e gli itinerari su Milano per quanto riguarda il periodo di Expo, messi a disposizione da 24 ore Cultura che edita insieme ad Electa questi due bei cataloghi. Grazie Pietro, bellissima chiamata questa sera. Andiamo con Mauro da Palermo. Buonasera. Buonasera. Io vorrei parlare della mia disavventura. Ah, pure. Io purtroppo non ho trovato belle ragazze, sono andato in vacanza e ho trovato clandestini. I clandestini? Tutti clandestini. Dove è andato in vacanza? Sono andato vicino Trapani, in Sicilia. Ho trovato solo clandestini. Non mi sembra una bella cosa questa. Ma cioè lei dove li ha trovati? Nell'albergo dove era lei? Nel camping? Accanto. Era pieno di clandestini, dappertutto. No, c'erano più persone clandestine che altro. È una vergogna. Ma questo quando avveniva, quando è venuta questa cosa? In questi giorni? Ma sto parlando una settimana fa. Sto parlando di pochissimo tempo. Ma la vacanza è riuscita a farla? Pieno, è riuscito a fare vacanza oppure le ha tolto il sonno questa cosa? No, mi ha tolto il sonno, solo che facevano un po' di casotto, era un po' di fastidio pagare per vedere i clandestini. Ma lei dov'era, in albergo o in campeggio? No, ero un residence e lì accanto c'era un altro residence pieno di clandestini. L'Italia ormai è così, soprattutto in Sicilia, dove chiaramente si cammina e ne vede 3-4 che camminano, che non si sa dove va. I centri di accoglienza sono al collasso. Grazie Mauro anche per il suo intervento e per la sua chiamata. È anche questa una, diciamo, disavventura estiva, mettiamola così. Giuseppe da Milano, buonasera. Eccoci. Guarda, io sono al Giambellino. Sì. Non so se tutti quelli neri sono clandestini, non so come facesse a saperlo l'ascoltatore precedente. No, ma credo che ci fosse nel residence a fianco al suo un cartello con scritto qui ci sono i clandestini. Un centro d'accoglienza, forse, sì. Ah, un centro d'accoglienza. Sì. Magari sono aspetto. Lei dice che l'ascoltatore Mauro era un po' razzista perché. No, ma come faccio a sapere? Ho sentito due parole. Dico che è difficile vedere da una persona se è clandestino o no, gli chiedi documenti e non li ha. Io chiamavo per altro. Per cosa, Giuseppe? Allora, dicevo che sono al Giambellino a Milano, dove abito. Sì. Non è il quadrilatero della moda, però io non so dove chiamasse l'ascoltatore che diceva che anche a Milano fuori dal quadrilatero è tutto sporco, ma venisse a vedere, perché invece a Milano secondo me c'è una pulizia che è eccezionale. Beh, credo di sì, io ci vivo a Milano e per quanto mi riguarda credo di poter dire che è discretamente pulita. Guardo le facce in regia di là, tutti dicono sì. Qualcuno dice ma insomma, Cristian Goldoni dice non so dove. Poi è ovvio che se uno crea un disagio una sera ci vorrà una notte o due per risolverlo, ma sono casi proprio singoli. Qui ci sono case dove ci sono, invece che essere nei campi rom dei rumeni, ma non è che fanno chissà che neanche loro. Certo, loro hanno l'abitudine di mettere fuori la roba e non telefonare all'AMSA, che se no gratuitamente verrebbe a prenderla, per cui l'AMSA deve organizzarsi lei e ci andrà un paio di giorni per portar via. Vabbè, Giuseppe, lei ha chiamato per puntualizzare questa cosa perché è, diciamo, certo, orgoglioso che Milano proprio sia pulita. Perché a Milano devono solo venire a vedere prima le periferie, che secondo me non ci vengono proprio, e poi magari andare a vedere anche il centro, che è una delle città più belle d'Italia. È una città sicuramente pulita, e dove la raccolta differenziata, per esempio mi sono andato a guardare i dati oggi, è salita al 53%, che è uno dei livelli più alti tra le capitali d'Europa, e sicuramente in questi anni sono stati fatti dei progressi. Grazie Giuseppe, buona serata. 800 24 00 24, traffico, torniamo tra un po'. Si può fare l'attualità anche d'estate. Allora, abbiamo Roberto da Bari. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Prego. Senta, no, io volevo fare un intervento a proposito dell'intervento del presidente Emiliano, dei medici cubani. Io faccio il medico. Sicuramente saranno bravi i medici cubani, però non si può confrontare una medicina da paese evoluto con una medicina da un paese in via di sviluppo. Le faccio un esempio: prenda per esempio le protesi cardiache, le protesi ortopediche, o prenda per esempio l'epatite C, di cui si parla tanto adesso. Curare un paziente con epatite C e guarirlo costa 40.000 euro all'anno. Io credo che il sindaco Emiliano, se avesse l'epatite C, si farebbe curare da medici italiani con i farmaci che costano 40.000 euro all'anno, e non sicuramente, l'ho detto con anch'io, degli estratti vegetali. Lo dico anch'io. Ma credo che anche i medici cubani sarebbero d'accordo, per quanto siano bravi, e credo che il discorso giusto sia contestualizzare, cioè per gli standard dell'America Latina probabilmente Cuba è un buono standard, ma se confrontiamo con i medici occidentali, come ha detto Emiliano, secondo me è un po' sbagliato Emiliano su quello. Lavorano con quello che hanno. Poi volevo dire una cosa sulla medicina difensiva. Io faccio il nefrologo e spesso mi trovo a dializzare persone che sono destinate a morire perché hanno delle malattie incurabili, solo perché i pazienti, i parenti, insistono perché si faccia la dialisi. Allora io mi trovo spesso a lavorare da solo senza avere il conforto di una direzione sanitaria, di qualcuno che mi conforti nelle mie scelte. se ci fossero dei comitati etici ospedalieri o delle linee guida precise che mi tutelano, io eviterei di fare medicina difensiva, perché spesso fare la dialisi a una persona che sta per morire è soltanto medicina difensiva per evitare la denuncia da parte dei parenti. Sì. Allora creiamo dei comitati etici dove io possa come medico chiamare il mio comitato etico ospedaliero che mi dice: no, guarda, questo paziente purtroppo è spacciato, è inutile sprecare risorse in una persona che ha solo 2 o 3 giorni di aspettativa di vita. Io mi sentirei confortato e probabilmente eviterei anche di sprecare risorse che invece andrebbero utilizzate in altra maniera. Sì, per quanto chiaramente, forse anche un po' cinicamente, ma insomma molto realisticamente, lei ha descritto una situazione, un caso di medicina difensiva che si può tagliare. Sul fatto che la medicina difensiva a volte possa sconfinare nella prevenzione, lei che è un medico, non è meglio fare un attacco in più che una in meno? Ma guardi, sulla vita delle persone non si scherza. Io le faccio l'esempio dei colleghi che lavorano al pronto soccorso, sì. Arrivano persone col mal di testa e loro fanno sempre un attacco a tutti quanti, perché sicuramente 90 sono 9 sì. sono inutili, però una può salvare una vita di una persona. Bisogna continuare a farle o no, secondo lei? Ma secondo me bisogna fare delle linee guida anche lì rigorose, sì. cioè decidere che se ci sono alcuni sintomi che accompagnano okay. il mal di testa si fa, però se in tutti no. i casi non va lasciato soltanto il medico di pronto soccorso che poi alla fine decide di fare un esame in più, perché poi... Va bene, questa mi pare una cosa ragionevole, spero che il ministro Lorenzin ragioni come lei. Grazie, buona serata, grazie. Ora vieni con me verso un mondo d'incanto, principessa, è tanto che il tuo cuore aspetta un sì. Quello che scoprirai è davvero importante, il tappeto volante ci accompagna proprio lì. Un tappeto, oggetto della discordia, un tappeto per pregare, oggetto della discordia a Torino, nel palazzo del comune di Torino. Ennesima provocazione leghista oppure una legittima rivendicazione di laicità? È successo che per, diciamo, in occasione di un forum internazionale con presenti persone di religione islamica, è stata allestita una sala per pregare con un tappeto. Ma due leghisti sono passati di lì e l'hanno tolto. Buonasera Fabrizio Ricca, consigliere della Lega Nord a Torino. Buonasera a tutti. Lei è uno dei due che si è esatto. anche ripreso in questa, diciamo, in questo gesto, no? Sì, assolutamente. Lo ritenevamo opportuno anche perché è una sala, diciamo, aulica della città di Torino, sì. la sala dei matrimoni, utilizzata per eventi istituzionali. Riteniamo che qualsiasi sia la preghiera, il comune di Torino, l'istituzione, il comune di Torino non debba essere un luogo di preghiera, ma debba essere semplicemente un luogo dove fare attività amministrativa politica. Sì, diciamo, voi avete detto lì non ci sono cappelle, non ci sono luoghi per pregare nemmeno per i cattolici, però e quindi non ci devono essere nemmeno per gli islamici. Io le faccio il mio esempio concreto, sì. qua vicino c'è una chiesa, io quando ho bisogno di sì. ho bisogno di fare 5 minuti tranquillo esco e vado nella chiesa. Domanda spontanea, sì. c'è vicino lì una moschea? Dove? A 5 minuti. A 5 minuti, quindi diciamo raggiungibile dal luogo di questo convegno. Quanti ospiti sì. c'erano internazionali per questo convegno su che cosa esattamente? Sulla moda? Sulla moda islamica. Sulla moda islamica. Quante persone c'erano? Io ho contato una 70 di persone. Poi quindi un convegno di un certo livello, sì. No, ma io sul convegno potrei anche non avere niente da dire. No, perché dovrebbe avere qualcosa da dire sul convegno? Andiamo a ritroso. Perché un convegno sulla sì. moda islamica effettuato nella sala consigliare, nella sala rossa del comune di Torino, secondo me, con tanti bei posti che la città può mettere a disposizione. Vabbè, ma scusi, ma di convegni se ne fanno tanti nei comuni, nelle sale pubbliche, perché adesso non si può fare un convegno su... Io capisco tutto, però... No, non è detto che non si può fare, io dico che... Se avessi deciso io li avrei messi in un posto magari anche un po' più comodo, perché la sala del consiglio... Sì, vabbè, adesso la butta sulla comodità. No, no, ma Con tutti quei posti che abbiamo a disposizione come comune, secondo me sacrificato. Poi capisco la volontà di volerlo fare all'interno del Palazzo Civico, e quindi, ma non è quello il problema. Sì. C'è una moschea a 5 minuti da qua, che io ho visitato anche 2 settimane fa, durante il Ramadan ho incontrato l'imam, ci siamo confrontati su alcune cose. Ampia, spaziosa, capiente. Io sono convinto che se una persona voglia pregare, dato che comunque la preghiera viene fatta in un momento di pausa, il comune a disposizione dei mezzi, dei pulmini con cui può trasportare le persone, dato che col pulmino i minuti sono anche meno, si prendono, si accompagnano e poi si vengono a prendere. Però io capisco la questione della laicità in un luogo come il comune, che è un luogo laico dove non si prega, insomma le preghiere si fanno fuori, sicuramente su questo le do anche ragione, ma non c'è anche un dovere di ospitalità rispetto a chi invece, come i musulmani, che pregano 5 volte al giorno, quindi sicuramente nell'orario del, come si chiama, di questo forum che c'è, di questo convegno, sicuramente ci scappava una preghiera, no? E quindi qualcuno avrà pensato, facciamoli pregare lì di fianco, non diamo noi a nessuno. Invece no, voi... guardi, poi Fassino ci ha preso la lettera e se li è messi nel suo, ha messo il tappeto e la sala di preghiera l'ha fatta nell'anticamera del suo ufficio, dove io a quel punto io non ho detto più niente. Ma se noi andiamo a utilizzare una, perché scusi, poi alla fine com'è finita? Il video vi mostra voi due che levate il tappeto da questa sala, lei è l'altro consigliere leghista, dopodiché arriva non so chi, un altro consigliere o un messo del comune, c'è cioè un vigile, era il comandante della polizia, comandante, che vi dice: ragazzi, esatto, che cavolo state facendo? E poi dov'è finito sto tappeto? Il tappeto è finito nell'anticamera dell'ufficio di Fassino, dove hanno allestito il posto, cioè la sala di preghiera. Io a quel punto non ho più detto niente, ma non era una sala istituzionale. Il messaggio dal mio punto di vista è: possiamo essere ospitati. Il problema era la sala istituzionale, non bisogna ospitare preghiere, ma neanche una preghiera cattolica, cioè nessun tipo di preghiera. No, ma io ho il mio ufficio, se voglio. Scusi, pregare, se fosse stato, se fosse stato un convegno di cattolici e uno avesse fatto una benedizione, lei avrebbe avuto qualcosa da ridire? Ma sì, perché non, cioè, la religione deve stare fuori dalle aule, ma qualsiasi religione. Io sono d'accordissimo con lei sul fatto che deve stare, però tutte. Ma sono d'accordo. Per quanto mi riguarda, è la mia idea. Sì, io poi sono credente, sono cristiano, ma vado quando riesco anche in chiesa. Ma non mi permetterei mai di chiedere a. Va bene. Senta, le voglio chiedere un'altra cosa, Ricca, però, consigliere comunale della Lega Nord a Torino. Non so se lei è al corrente di questa cosa qua. C'è una piccola polemica che riguarda il centrodestra e l'Islam in Sicilia, perché diciamo la Lega in Sicilia, che si chiama Salvini per il Sud, ha proposto. Noi con Salvini. Come? Noi con Salvini. Noi con Salvini, però in questo caso per il Sud, sì. Credo che la declinazione fosse questa. Ha proposto Pietrangelo Buttafuoco, giornalista, tra l'altro che collabora anche con Radio 24, come candidato governatore della Sicilia. Lo conosce Buttafuoco, sì? Certo. La sapeva questa candidatura? Sì, io guardi. Poi però la Meloni ha detto no perché è islamico, si è convertito all'Islam. Lei che ne pensa? Che dal mio punto di vista ha ragione Salvini. Se ci fosse, guarda, io ho sentito e riporto le stesse esatte parole di Matteo Salvini questa mattina a un'intervista su Radio Padania. Dice: se il problema dell'Islam fosse creato da persone come Buttafuoco, non avremmo nessun problema. Quindi questo credo che possa sintetizzare tutto. Sono convinto. Per cui un che convertito all'Islam per lei può essere tranquillamente un candidato governatore di una regione italiana. Io non conosco Buttafuoco personalmente, cioè lo conosco per sì, vabbè, chiaro, bisogna poi approfondire su altri aspetti del candidato, esatto, però quell'aspetto lì non la preoccupa. No, perché sono convinto che al momento in cui Buttafuoco, 90%, come diceva Salvini stamattina, lui non accetterà nemmeno. Però sono convinto che abbia il senso dell'istituzione, che al momento in cui c'è, non organizzerebbe mai un convegno, una sala di preghiera all'interno del Parlamento. Il tappeto siciliano non l'avrebbe messo Buttafuoco, lei dice. Chi lo sa, questo è difficile fare una previsione. Posso immaginarlo. Poi io non ho preclusioni verso nessuno, ma soprattutto verso nessuna religione. Ci sono delle frange, poi chiaramente, ed è uno degli argomenti di cui ho discusso con l'imam della moschea di Via Chivasso, che ci sono delle frange di persone di religione islamica che sono si sono esaltate. Va bene, e, quelle va, e quelle vanno combattute. Quindi, cioè, pronti a farsi governare eventualmente anche da un governatore islamico, qualora fosse, diciamo, avesse le carte in regola da, dagli altri punti di vista. Grazie, Fabrizio Ricca da Torino, buona serata. Grazie a lei, buona serata. 800 24 00 24, vi aspettiamo dopo il giornale radio. Spunti di vista, ci occupiamo dei mille aspetti dell'attualità, quelli che incidono su come viviamo, sulla qualità della vita, i confronti e i modelli con gli altri paesi. Sono Irene Zerbini e vi aspetto con Spunti di vista tutti i giorni dalle 7 alle 10 qui su Radio 24. Si può fare l'attualità anche d'estate. Fresca era l'aria di giugno e la notte sentiva l'estate arrivare. Tequila, mariachi e sangria, la fiesta invitavano a bere e a ballare. Le curve curioso taceva, una storia d'amore cercava. Guardava le donne degli altri parlare e danzare. Quando la notte ormai è morta, gli uccelli sono soliti il giorno annunciato. Le coppie abbracciate sono prime a lasciare la fiesta per andarsi ad amare. La pista ormai vuota restava, lui stanco e sudato aspettava. Lei per scherzo girò la sua gonna e si mise a danzare. Buonasera di nuovo da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare, 18, 20 e 30, 800 24 00 24, vi aspettiamo questa sera per parlare di Roma, nel giorno della presentazione della nuova giunta, per parlare dell'Italia alla sanità, si vota il decreto enti locali, vedremo se ci saranno questi temuti tagli per quanto riguarda la sanità, sulle note di Vinicio Capossela che è in collegamento telefonico con noi. Buonasera Vinicio. Salve a tutti. È un grande piacere averti qua, noi non ci conosciamo, posso darti del tu però, sì, certo, sei un personaggio talmente pubblico che bisogna fare così, tra l'altro. Questa è L'ultimo amore, ti piace riascoltare le tue canzoni o ti dà fastidio come capita a volte alcuni artisti, tra l'altro? Ma è divertente ascoltarla per radio, pensare che la stanno ascoltando altri. Io personalmente non mi ci metto, preferisco suonarle, tenerle in vita suonandole, anche perché le canzoni hanno questa disgrazia che vengono registrate di solito appena sono nate e quindi col tempo poi naturalmente cambiano, nel senso che uno cantando lei ci prende più confidenza, quindi preferisco, se voglio di una canzone me la suono, ecco, visto che l'ho fatta io. E capita spesso, perché Vinicio Capossela si esibisce naturalmente come tutti i cantanti e gli artisti in diversi concerti. C'è un appuntamento particolare invece che hai appena presentato, si terrà dal 24 al 29 agosto in provincia di Avellino ed è lo Spons Fest. Sì, questo è un festival che si tiene in una zona piuttosto interna d'Italia, perché è l'Alto Irpinia, che sì, la prima cosa bisognerebbe dire come raggiungervi, come raggiungerci. Sono terre segnate dalla cultura del grano, terre che evocano un potente immaginario, qualcosa di ancestrale, ma anche un incrocio tra un film di Custurica e uno di Sergio Leone, ecco, come tipo di frontiere che mi hanno sempre suggerito. Ci sono tante cose da raccontare. Ah, scusa, prego, finisci. E così anche ci sono, e così anche le musiche, no? Che questo festival, che ha la sua terza edizione, sì, un festival che è nato da un'esperienza soprattutto di comunità, cioè fare una cosa in comune è un grosso coinvolgimento, diciamo, degli abitanti di questi paesi, che in gran parte sono paesi che si sono molto svuotati, diciamo, con l'immigrazione, però sì, che rimangono. Che paesi? Possiamo fare qualche nome di alcuno di questi paesini, per esempio? Sì, sì. Il principale, il capofila, si chiama Calitri, sì, e quelli che ci stanno intorno sono Aquilonia, Andretta, Conta e Cairano, che sono tutti intorno, diciamo così, a una valle, quella dell'Ofanto, il fiume Ofanto, e questo picco, questo monte su cui c'è in questo paese che si trova più in alto, che si chiama appunto Cairano, che così, è il soggetto del paese dei coppoloni, questo libro che insomma, ci ha messo 17 anni a scrivere, che ho pubblicato quest'anno, ma sono tutte storie. Il festival quest'anno è dedicato ai sentieri del mulo e del mito, perché sono luoghi, insomma, dove il racconto epico, diciamo, ha sempre segnato perlomeno la mia fantasia, ma è una terra che ha questo tipo di evocazione di suo, e quindi quest'anno il festival è itinerante, percorre questi sentieri con una carovana di asini, una carovana di una trebbiatrice volante, che è uno strumento quasi una trebbiatrice volante. La trebbiatrice serve per mettere il grano. La trebbiatrice volante è uno strumento cardinale proprio della cultura del grano comunitario, sì. Perché si usava prima della Mieti trebbia, c'era la trebbiatrice, che era questo grosso cassone con un sacco di volani, argani, cinghie. A me da piccolo sembrava veramente una di quelle macchine come nei film di Miyazaki, no? E faceva un sacco di polvere, perché faceva questa operazione antichissima e biblica, cioè separare il grano dalla pula, cioè quello che ti nutre da quello che invece non serve, che è lo scarto. Simbolicamente è molto il fatto che sia volante, cioè che sia stata ricavata una macchina volante, è un po' così il primato della conquista dell'inutile, ecco, qualcosa che pone più che all'utilizzazione pratica proprio il primato dell'immaginazione. Ecco, ma quest'anno volante, sì? No, dico, quest'anno questo Spons Fest, che è la terza edizione, come dicevi giustamente tu, ha avuto però anche una serie di presentazioni discretamente autorevole, perché sei andato in Expo per presentare questo. Oh, boh, no, questo è stato una cosa divertente con Stabilone Virtina. No, è più divertente il fatto che ora ho suonato qui a questo festival a Lyon, che è un festival molto importante, sì, in Francia, e il direttore di questo festival, quando ha visto il programma, ha detto: voglio venire a vedere questo festival. E io ho detto: guardi, signor direttore, ha presente il suo festival, ecco, proprio una cosa che non c'entra niente. L'opposto. Perché è una cosa che si vuole. Del resto c'è sempre un po' di concorrenza con i cugini francesi, si sa, quindi cerchiamo di differenziare. Su dei posti proprio, insomma, dove il fattore umano è molto importante. E diciamo che un po' lo spirito di questo festival è quello di non essere spettatori di eventi, ma essere tutti attori di qualcosa, nel senso che è un invito a fare questa a ognuno quello che ha. Se uno ha una settimana, bene, se ne ha tre giorni, comunque ci sono due o tre cose molto divertenti. Intanto la musica di frontiera di vario genere, la fanfara tirana, sì, una fanfara, perché tu poderosa. Hai anche prodotto un disco di questa banda della Posta che hai riscoperto un po' come Buonavista Social Club, no? Cioè questa è un'operazione di riscoperta di una musica tradizionale, il Pina, che c'è e che tu hai cercato di far rivivere. Loro si esibiranno con te anche durante i giorni del festival, è così? Sì, anche questo. Due anni fa abbiamo fatto insieme un disco che si chiama Primo Ballo, dove abbiamo semplicemente registrato il patrimonio delle musiche da ballo, musica popolare da ballo che suonano gli sposalizi. Non è tipicamente del posto, è una musica che alla fine appartiene, insomma, a musica popolare, appartiene un po' a tutti. La musica che serve per ballare. Lo Spons Fest si chiama così perché sponsarsi significa inviparsi, rendersi mali di signore, insomma, la musica da ballo ha un grande rilievo, insomma, e una parte del programma è dedicata allo sposalizio, ma anche allo sposalizio delle culture, per cui, per esempio, allora iniziamo con il 24, l'apertura, ci sarà un concerto all'alba nel paese di Andretta, su un'aia, della fanfara tirana. Il giorno dopo ci sarà una giornata dedicata al grano, si chiama La Passione del Grano, ci saranno diversi un lavoro vocale di donne coordinate da Enza Pagliai, una brava che cantante, anche ricercatrice, poi Antonio Infantino, e poi il giorno dopo ci sarà una cosa intorno a una chiesa che si chiama di San Vito, quindi i cosiddetti turni di San Vito, qualcosa che ha a che fare con la tua famosa canzone? Qualcosa che sempre intorno. E San Vito è la divinità pagana, quasi, che esprime proprio l'appetito, la voracità insaziabile, il moto perpetuo. E poi il 29 agosto ti sposi. Un secondo, Perché ci sono due cose a cui tengo molto, sì. Il 27 e il 28 di agosto a Calitri, appunto città, sì. Cosiddetto Spodalizio, sì. C'è una serata di Spodalizio delle cucine, dove musicisti e cucinatori di Creta e dell'Albania si uniranno con quelli locali per fare veramente una specie di banchetto nuziale all'aria aperta, dove sarà possibile mangiare il gamo pilaf, che è il riso delle nozze cretesi, e avere tra i più grandi interpreti di musica cretese. Meraviglioso, meraviglioso, immagino il grande Saradonis, e lo stesso accadrà con la cultura albanese, perché c'era appunto la fanfara tirana e una serie di gente che cucinerà in forma di laboratorio. C'è un'esperienza, sì. Un po' aperta anche a chi voglia prenderne parte. Il 29 c'è un concerto speciale, che è il concerto delle mie nozze d'argento con la musica. Ecco, diciamo questa cosa qua, la dico io anche con un po' di solennità. 25 anni di carriera, sembra un attimo che è passato, invece sono già 25 anni che ci tieni in compagnia con le tue canzoni, e lo festeggerai all'interno dello Spons Fest, dicevi, con degli ospiti. Beh, questo intanto è una locazione piuttosto particolare, veramente di frontiera, perché è una stazione in disuso ora, la stazione di Contandetta Cariano, che si trova proprio sotto questo promontorio dei Coppoloni, e il 29 di agosto è anche plenilunio, quindi c'è luna piena, e ci sono alcuni dei musicisti con cui ho collaborato nella maniera più vicina però a quella terra, per esempio la Cociani Orchestra, cioè Neat Velio della Cociani Orchestra, perché c'è una divisione con cui abbiamo fatto un disco chiamato Live in Volvo, e poi c'è un gruppo che viene dal Texas che si chiamano Tex Maniacs, che fanno quella musica splendida che serve proprio per ballare, il cosiddetto congiunto, la musica Tex-Mex. Poi c'è il grande Augel, poi c'è la banda della Posta, e questo straordinario interprete di musica cretese, quasi un essere mitico, che si chiama appunto Saradonis. È una, più che un concerto, insomma, una notte di musica che culmina poi il giorno dopo, il 30, con un'ascesa a questo paese di Cairano, dove c'è una serie di letture e gli altri. Senti, io mi ero preparato anche una domanda, forse sarà banale per chi conosce la tua biografia, per chi magari ti ha sentito in qualche intervista recentemente, però siccome dal caos della Grecia siamo appena usciti, tu nato in Germania, con una grande passione, l'abbiamo appena sentito, per il Mediterraneo e per la Grecia, hai dedicato un disco con tutte le musiche del rebetico, come hai vissuto questo derby, chiamiamolo così, questo vero e proprio dramma europeo, che per ora sembra che si sia in qualche modo avviato a risoluzione, tra la Grecia e la Germania? Allora abbiamo girato un film che si chiama Indebito con il, sì. Regista Andrea Segre, e l'abbiamo girato proprio nelle elezioni del 2012, dove si riproponeva questa grandissima pressione sul popolo greco, quasi ricattatoria, o state. In quel periodo c'era la competizione europea, quindi c'erano gli europei, appunto, e c'era la partita Germania-Grecia, certo. E quindi è stato davvero divertente fare il tifo per il più debole, ma al di là delle cose calcistiche, io credo che ho cercato di dare il mio contributo facendo questo libro, questo film, questo disco, perché penso veramente che l'Europa non possa essere soltanto un'unione monetaria di banche segnata così rigidamente proprio da meccanismi che sono spesso fuori dall'umanità, nel senso che poi sono riunioni di alto bordo che decidono veramente l'esistenza delle persone, ma sono lontanissime dalle persone. Mentre invece credo che l'Europa debba essere anche un'unione di culture, conoscersi meglio, avere e sentirsi parte di un discorso comune. Questo credo che sia molto importante. Mi unisco a questo auspicio per quello che conta, e tanti auguri per i 25 anni di carriera che festeggerai tra un mese circa in quei luoghi meravigliosi di cui ci hai appena parlato, Spons Fest, 24-29 agosto. Grazie mille per essere stato con noi, buona serata, Vinicio Capossela. Ciao a tutti, vi aspettiamo. A quanti di voi vogliono sospendere il corso delle lancette dell'orologio, ecco. Staccare un pochino delle nostre protesi della comunicazione, della personalità, può essere una buona settimana, e soprattutto laggiù non c'è il mare, quindi non avete non c'è neanche il problema di darsi la crema, di tutti questi problemi che si creano al mare, è tutta un'altra cosa. Grazie, ciao, buona serata, buona estate. Ciao a tutti. Ciao. Signora Luna, che mi accompagna per tutto il mondo, puoi tu spiegarmi dove la strada che porta a me, forse nel nel sole, forse nell'ombra, così paresse. Ombra nel sole, luce nell'ombra, sempre per me. Attualità anche d'estate. No, buonasera da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. 800 24 00 24. Aspettiamo i vostri interventi. Adesso sentiamo i titoli di cosa abbiamo? TG3. A Roma via la nuova giunta, vice sindaco Causi esposto ai trasporti, Rossi Doria alla scuola e Diliegro al turismo, Marino Renzi ci giudichi per quello che facciamo. Il governo mette la fiducia al Senato sul decreto con i tagli alla sanità, Lorenzin risparmi da reinvestire, Renzi in 5 anni 50 miliardi di tasse in meno. Le intercettazioni non vanno limitate, sono indispensabili, così il presidente del Senato Grasso sulla pubblicazione, conciliare i diritti alla riservatezza e all'informazione. Pannella in diretta radio televisiva accusa Emma Bonino, lavora molto ma è fuori dai radicali. Lei replica, siete scemi, una vita di battaglie politiche fianco a fianco, via libera, vicino alla riapertura delle borse di Atene chiuse da un mese, il salvataggio delle banche europee, costato agli Stati Uniti gli interventi per la Grecia. Libia ha condannato a morte il secondo figlio di Gheddafi, Saif al-Islam, il Rais lo aveva scelto come erede. L'accusa aveva represso le proteste antiregime. Tania Cagnotto vince l'oro dal trampolino di un metro ed entra nella storia della disciplina ereditata dal padre Giorgio, che mai conquistò il titolo iridato. E allora, come detto, è il momento dei vostri interventi, cari ascoltatori, e cominciamo con Bruno che ci chiama da Roma. Buonasera. Buonasera, io volevo riferirmi a quell'intervento sì. dell'ascoltatore per il degrado della città, per il degrado della situazione, per di tutto il degrado che c'è. Parlando di Roma? Parte, sempre sì, di Roma parliamo. Roma, sì. Roma, sì, sì, parliamo di Roma, ma anche diciamo, io vedo Roma, vivo a Roma. Sì. A parte l'immondizia che c'è per strada e si telefona continuamente all'AMA e non interviene nessuno, volevo portare proprio un esempio piccolo. Del menefreghismo che c'è in giro e dell'approssimazione. Ieri sera sono stato allo spettacolo di Bolle, il balletto, il grande ballerino. Sì. È un bellissimo spettacolo. Che è stato fatto tra l'altro qualche giorno fa anche a Pompei, eh? Sì. Tanto per dirne una. Sì. Ieri sera c'era a Roma, alle Terme di Caracalla. Sì. Una cornice bellissima, soltanto che hanno aperto i cancelli in ritardo. Che cosa è successo? Si è formata una grande ressa, sì. Quindi tutta questa gente che voleva entrare, tra cui anch'io, poi alla fine ci siamo seduti proprio un minuto prima che cominciasse lo spettacolo, però altra gente continuava a defluire. Ma quanto in ritardo quindi sono stati aperti i cancelli? Molto in ritardo? Secondo me sono stati aperti molto in ritardo, io non so quanto. E vi è stata data una spiegazione per questo? No, non è che l'abbiamo chiesta, anche perché dopo è cominciato lo spettacolo e tutto diciamo è finito lì, però diciamo nei primi 20 minuti di spettacolo c'è stata una gran ressa. Ma la gente si lamentava per questo oppure sì, diciamo sì, è stato un piccolo inconveniente? No, ha creato disagio. Si lamentava perché davanti a noi che stavamo seduti sì. passavano tutti gli altri che andavano a prendere posto e la gente inveiva contro queste persone, ma queste persone, poveracce, non è che avevano colpa, perché era l'organizzazione che doveva aprire prima in modo da permettere a tutti di star seduti per le 9:10. Vabbè, è andata sempre meglio di quei turisti che a Pompei hanno aspettato 2 ore la mattina sì, sotto il sole infernale di quei giorni lì. Però, vabbè. Cioè, voglio dire, diciamo, sì. ognuno fa il proprio lavoro. Se tutti quanti cerchiamo di farlo il meglio possibile, forse tutti ci guadagniamo. Va bene, Senta, le posso chiedere anche a lei, ecco, disavventure durante le vacanze, chiediamo anche questo stasera, c'è qualcosa da raccontare? Ma io ho fatto, nel passato lei sì, dice. Sì. Ma adesso non mi sovvengo. No, niente, va bene, grazie, buona serata. Buonasera. Chiediamo anche questo agli ascoltatori questa sera, prendendo spunto insomma dalle notizie, purtroppo un'altra figuraccia, no? Vedi, ne vengono fuori una al minuto, qua si parla di ritardo all'apertura di uno spettacolo alle Terme di Caracalla a Roma, c'è stato fatto di Pompei, tutti i disagi di Roma, volo Firenze-Palermo, 20 ore di attesa, l'altra notte, l'altra sera, ieri sera fino alle 21 doveva partire l'aereo, non si sa per quale motivo non è partito, i viaggiatori sono stati trasportati tutti all'aeroporto di Pisa e sono partiti oggi pomeriggio con malori, disagi, hanno tentato di occupare l'aeroporto, immagino, perché 20 ore non sono poche di attesa. E allora vi chiediamo, però, perché siccome a volte dalle disavventure nascono anche delle cose positive, perché no? Un ascoltatore ci ha chiamato prima raccontando come, perché ha conosciuto addirittura sua moglie, quella che poi è diventata sua moglie, in un porto in Grecia. 800 24 00 24. Massimo da Teramo, buonasera. Salve, buonasera. Prego. Allora, volevo intervenire a proposito delle spese per quanto riguarda la sanità. Sì. Allora, le spese per quanto riguarda la sanità, siccome nessun ministro fino ad oggi ha voluto risolvere, adesso parlano, eccetera, eccetera. Purtroppo non ci dobbiamo rimettere noi le penne, noi cittadini, perché ognuno di noi ha diritto per Costituzione alle cure. Allora, la spesa sanitaria, devono dirci qual è la percentuale, siccome la spesa sanitaria è il 70% circa per i colletti bianchi, no? E il 40% circa per i camici bianchi, ovvero per le prestazioni che vengono fatte effettivamente in sanità. Scusi, qual è la differenza tra colletti bianchi e camici bianchi? Allora, i colletti bianchi sarebbero gli impiegati per la sanità, quelli che non producono prestazioni sanitarie. Cioè gli amministrativi. Quindi, bravissimo, esatto, gli amministrativi. Allora, perché non riduciamo le spese sugli amministrativi? Non Ma lei solo. Scusi, questa cifra che il 70% delle spese circa, della sanità circa, sono per circa. Spesa amministrativa, è sicuro? Sì, ne sono sicuro, perché sono. E da dove l'ha presa questa fonte? Sono un imprenditore privato convenzionato lei è convenzionato con lavora nella sanità? Cosa fa? Vende qualche cosa? Niente, noi. Cosa, scusi, siamo, Massimo, scusi, no, cosa noi produce? Prestazioni ambulatoriali, analisi cliniche. Ah, ma lei ha proprio un centro? Cosa fa? Dirige un centro? Sì. Convenzionato, cioè, ci hanno fatto accreditare per il sistema sanitario, ci hanno fatto spendere l'ira di Dio, perché solo le strutture di eccellenza possono lavorare privatamente, mentre gli ospedali, i centri pubblici non sono ancora accreditati. Quindi devono sapere gli italiani che andare in una struttura privata ed è accreditata col sistema sanitario, mentre invece il pubblico ancora non è accreditato, può fare tutto quello che vuole. Vabbè, Massimo, quindi, che dobbiamo fare? Quindi concluda l'intervento. Sì. L'intervento è: le spese sanitarie non sono legate soltanto e esclusivamente per le spese dirette di prestazioni per esami abbiamo capito, grazie. Per questioni abbiamo capito. Massimo, buona serata. Per questioni amministrative, troppe spese, secondo lei il 70% bisognerebbe diminuire. Bisognerebbe intanto verificare anche questa cifra. Andiamo con Paolo dalla provincia di Treviso. Paolo, buonasera. Pronto? Sì, prego. Eccomi qua. Allora, io volevo dire una cosa un po' controcorrente. Vada. Nel senso che ormai sono 20 anni che io partecipo a cene serali con i miei amici, anche radical chic, i quali l'argomento di serata è parlare male dell'Italia e degli italiani. La città è sporca, a Venezia non vado perché è sporca, ci sono le cacche dei cani, no? E poi le disavventure le vivono anche all'estero, però vengono un po' censurate, no? Io, per esempio, lei questa sera vuole che si parli di disavventure. Sì. Le posso dire che ho avuto una disavventura straordinaria in Svizzera, vuoi parlarne? Ebbene, il treno era in ritardo. In Svizzera il treno in ritardo, non è possibile, lei sicuramente ma si sbaglia. Eppure era in ritardo. Di quanto però? Una decina di minuti. Vabbè, 10 minuti per un italiano, 10 minuti, mi scusi, cosa sono? No, ma infatti sono luoghi comuni, no? Ah, ecco. Allora, ma lei ce l'ha un episodio vero da raccontare sulle vacanze o no? No, certamente, intanto questo. Poi posso dire che è appena tornato un amico caro da Berlino, il quale ha detto che Berlino è sciatta, è sporca, c'è criminalità. ed in Germania lo so, ma guardi, sa cosa credo gravi. Io sa cosa credo io, grazie Paolo, buona serata. Io credo che se ci basiamo sul sentito di, su quello che dice, ma anche semplicemente un giornalista del New York Times che fa quattro foto, o quello che raccontano gli amici da Berlino, che sono stati a Berlino, uno vede qualche cosa di una città, si fa un'idea e poi la comunica al resto del mondo. Però insomma, bisogna fare discorsi un po' più generali anche su Roma, sicuramente, no? Perché è chiaro, fai le foto al cassonetto dei rifiuti, le fai girare il mondo, addio, basta, finita, l'immagine di Roma è tutta in quella foto lì. Poi chiaramente a Roma ci sono anche problemi veri che vanno al di là dell'immagine. Italo dalla provincia di Reggio Emilia, buonasera. Buonasera. No, volevo ricordare solo quello che ho imparato da Radio 24, e cioè che i direttori generali delle ASL, che sono tra le più grandi aziende a livello regionale, sono di nomina politica, perché vengono nominati dall'assessore regionale alla sanità. A cascata i dirigenti, che sono tutti i medici, perché i medici sono inquadrati tutti come dirigenti, per cui con stipendi elevatissimi, sono per forza di cose collegati con il loro direttore generale, per cui se c'è una cosa da rottamare è il fatto che il direttore generale sia di nomina politica e non sia invece per, diciamo, per concorso a livello europeo, a livello nazionale almeno. A livello, sì, potrebbe, grandi ASO potrebbero fare anche concorsi internazionali forse. È una cosa su cui, Emiliano, intorno a cui si gira da molto tempo, ma che non si è ancora trovato un modo. Ma sì, è chiaro, perché per la politica significa rinunciare a un centro di potere. Vero. Che non le compete alla politica. Emiliano, quando dice che gli stipendi dei medici cubani, che sono bravissimi, sono molto molto contenuti, mette il dito sulla piaga, non esplicitamente, ma ti fa capire che se tu in un ospedale vai a guardare e metti insieme tutti gli stipendi dei dirigenti, arrivi a cifre che sono notevoli. Va bene, questo sicuramente non è, sì. Non è che non siano meritate, saranno meritate. Teniamo presente anche che molti di questi stessi medici, finito il lavoro in ospedale, lavorano anche in ambulatorio privato, dove le prestazioni vengono pagate profumatamente. Grazie per Italo, cui... buona serata, ciao, grazie. Alfio dalla provincia di Perugia, buonasera. Sì, buonasera. Io volevo intervenire per quanto riguarda le spese, diciamo, della sanità. Sì? Io sono un donatore Avis da tanti anni e io suggerirei a tutti gli italiani di donare il sangue e così hanno tutti gli esami gratis per ogni 3-4 mesi, ogni volta che donano il sangue. Quindi, non so, una domanda faccio a lei. Lei è un donatore Avis? No, io non sono donatore, io ho donato. Qualcuno anche paura degli aghi, ma dico, no, magari no, io l'ho fatto un paio di volte di donare il sangue, troppo poco sicuramente. Mi mandano ancora i messaggi per chiedermi di tornare a farlo. Quindi secondo me è una buona idea, nel senso che sì. Io vado ogni 3 mesi, ogni 4 mesi, ho sempre analisi aggiornate, quindi se c'è qualche cosa poi sempre gratuitamente, quindi se facciamo il conto di tutti gli italiani che fanno gli analisi. Però scusi Alfio, questo non è che sottrae costi, come dire, come no? alla spesa sanitaria complessiva, perché quelle analisi comunque hanno un costo, no, per il sistema sanitario. Dopodiché, siccome lei dona il sangue, in realtà poi il sangue ha anche un valore economico, no? Per cui diciamo è un dare avere. Però gli esami che lei fa non è che non hanno un costo. Però lei dice io li faccio in quelle circostanze. È un risparmio anche per l'utente, per il cittadino, insomma. Sicuramente per l'utente lo è, sì, sì. Ok, volevo solo intervenire su questa cosa qui. Quindi magari un messaggio a tutti gli italiani che siete capaci. Donare il sangue va benissimo. Grazie Alfio, ciao, buona serata. Ci hanno mai mandato a quel paese? Sapessi quanta gente che c'è sta. Il primo cittadino è amico mio. Tu digli che te ci ho mandato io. E va avanti tu che adesso c'ho da fa. Sarai la mia metà, ma se non parti diventi un altro po' la mia 3/4. E va, non puoi saper piacere che niente fa. Magari qualche amico ti consola. Vabbè, va bene. Diamo la buonasera a Enrico Montesano. Buonasera. Buonasera, buonasera. Che sia buona, no? Che sia buona questa sera. Tra le tante cose potresti fare anche un'imitazione di Alberto Sordi. Vabbè, ma questo è il grande Albert, grande Albert One. Albert One, grandissimo. Con questo te ci hanno mai mannato. Che chiaramente a chi pensiamo? Adesso tutta Roma, c'è la giunta Roma, ma tutti a chi pensano? Al sindaco. Indovina un po'. Allora, insomma, io quando faccio gli spettacoli faccio tante battute di satira, è un mio bersaglio preferito il sindaco Marino, dico lui si è fatto crescere la barba per non farsi riconoscere, ma i romani lo riconoscono lo stesso. Adesso va di moda tra l'altro farsi crescere la barba, non so se per quel motivo lì o per altri. Comunque tu ti schieri sicuramente tra quelli abbastanza critici, diciamo, al di là poi della satira, che ovviamente la fai per far ridere il pubblico. Ma certo, quello si prende un personaggio e si massacra, perché bisogna far ridere. Si fa con tutti, la fai con Alemanno, la fai con Marino, ovviamente. Ma con Alemanno, con Renzi, con tutti, con Berlusconi. Ovvio, Berlusconi ormai è come sparare sulla Croce Rossa, ma insomma, io sì, è da tempo che facciamo delle battute, tempo fa siamo andati anche a finire sul giornale, perché io ho detto invito con la mia Vespa a fare un giro al sindaco Marino, andiamo a vedere i campi dove questi luoghi di Roma abbandonati a se stessi, che sono ormai extraterritorialità, dove bruciano della roba, fanno delle cose come nella terra dei fuochi in Campania, a Napoli. Come la terra, bravo, esatto. E l'aria, e io dico sindaco, purtroppo noi ci abbiamo sto vizio, dobbiamo respirare, non ne possiamo far meno, perché noi dell'asfalto ne stiamo facendo a meno. Cioè, ogni tanto qualcuno cade, si rompe una gamba, si rompe cosa, ma il comune c'ha degli avvocati bravissimi e cerca di non pagare. E facciamo a meno dei vigili urbani, perché non si vedono più, solo per farci le multe gli ausiliari del traffico. Ma credo che abbia annunciato un po' di assunzioni oggi proprio Marino, però sembra tutto che si sia come mettere delle toppe, no? Perché insomma la situazione, io dico, non può essere tutta colpa sua, sicuramente non è responsabilità solo di questa giunta, però lui sta lì, è il sindaco, chiaramente deve tirare le fila e anche forse deve dare la sensazione di... L'ho detto, anche esattamente questa cosa, ieri ho fatto un'intervista Corriere della Sera, la nostra pagina della cronaca di Roma, l'ho detto, dico, io lo prendo sempre in giro nelle mie battute, nei miei spettacoli, però una lancia la spezzo, è un uomo solo, se non cambiano i burocrati e gli amministrativi, quelli sono sempre gli stessi. Ma che vuol dire un uomo solo? Perché questa sensazione, in effetti, forse anche il fatto di non essere romano, forse il fatto che... No, ma io sono il sindaco, parlo con l'assessore, l'assessore deve parlare con qualcun altro. E questo qualcun altro parla con i suoi sottoposti e lì la cosa si insabbia. Cioè gli amministrativi, cioè gli inamovibili dovrebbero essere movibili. Il sindaco lo possiamo rimuovere, quando ci saranno elezioni voteremo per un altro sindaco, no? Sì. Prima c'era Alemanno che era centrodestra, adesso c'è Marino, centrosinistra. Io sono per il ricambio nelle amministrative, perché non è che ho fatto un voto alla Madonna de Fatima e tutta la vita devo votare a quel partito, giusto? Cioè facciamo un po' come gli inglesi, cioè io una volta voto i conservatori, una volta i liberali, i progressisti, però poi io mi ricordo che quando stavo al comune, se c'era un consigliere che voleva prendere l'iniziativa si doveva rivolgere all'assessore, l'assessore dice vai alla ripartizione, alla ripartizione parlavi con un ingegnere, un burocrate, un cosa, e poi ti diceva oggi forza lavoro 60, 35 sono malati. Capito? E questa è la lancia che spezzava a favore di Marino, se lui vuole cercare di, cioè tu dici spingere, far ripartire un comune come Roma, una pubblica amministrazione mastodontica e abituata, diciamo, a zone d'ombra, a essere permissivi, abituata a essere un po' lavativi, un po' violenti, perché se fai così se no te brucio tutto, tipo insomma c'è un sistema un po' mafioso. Perché per esempio, no, ecco, sempre su questa linea, no, di spezzare, non dico una lancia nei confronti di Marino, non è questo il punto, ma di capirsi, di guardare le sue colpe, lui ha delle responsabilità perché se ne dovrà accorgere da prima, ecco. Questo sicuramente sì. Però c'è una notizia, no, che ho visto in questi giorni ed è che riguarda probabilmente proprio i romani, no, voi romani, perché ci sono i due operatori. Posso obiezione accolta, ma vostro onore. No, voi romani non mi piace. No, voi romani perché? No, perché è una notizia che riguarda... Sì. Voi che abitate in questa città. Sì, sì. No, ma non ne faccio una questione di razza. No, perché è gli abitanti ovvio di questa città non sono romani. Sì. Questo è vero, questo è vero, bisogna dirlo. Lo stesso vale anche per Milano, dove io vivo, dove chiaramente sono città cosmopolite. Però ci sono due operatori del car sharing, le auto che si prendono, si noleggiano per una mezza giornata, che hanno detto di volersene andare da Roma perché troppe auto vandalizzate. Cioè, c'è gente che prende la macchina a noleggio, poi dà dei dati anche falsi, prende dei rossi, dei semafori, non paga le multe, lasciano le cartacce. Sono fregate tutte le biciclette elettriche. Esatto. Ci sono rimaste le colonnine. Hai voglia qui a dare colpa al sindaco? Qua di chi è la colpa? Io, è dell'inciviltà del cittadino italiano, dell'abitante di Roma. Che è una cosa che dovrebbe cambiare. Cioè, se io arrivo all'ultimo minuto e mi parcheggio sopra il marciapiede, ostruendo lo scivolo per i non vedenti e per i disabili, è una cosa bruttissima. A quello che gli vuoi dire, a quello che c'ha nel cervello, quello che c'ha un bagarozzo, come si dice a Roma, che c'ha la paglia, cioè. Se uno si comporta così, perché a me mi viene comodo un attimo, ma che sei un vigile tu? Se gli dici qualcosa. No, va bene, non sono un vigile, però insomma, fatta affari tua. Sì, però poi tu te fai gli affari tuoi, io mi faccio gli affari miei e qui questa città diventa invivibile. A proposito di questo, che ne pensi dell'appello, diciamo, tra virgolette, lanciato da Alessandro Gassman sul l'hashtag Roma sono io? Però io ho detto, più che lanciare un hashtag, qui bisognerebbe lanciare un martello in testa a tutti quelli che si comportano male. Non basta l'hashtag, ci vuole qualcosa di più. Un martello pure pesante, dallo in testa, sulle mani, cioncaglie le mani a chi ruba, a chi... Beggia, che brutto termine. Oddio, quanto è brutto questo termine, beggia, beggiare. Totò. Ecco che se ne va. Punta Totò dal corpo di Montesano. Sì, allora, capito? Io dico, queste sono operazioni di facciata. Poi ci sono i grossi problemi che li sappiamo, no? Ecco, senza tu in che quartiere di Roma stai, vivi? Io sono nel quartiere Salario Parioli. E com'è lì la situazione? Stai in una zona buona, dai. Paghiamo un botto di IMU, di ICI, perché dicono che sarebbe zona lusso, ma ci avevamo gli alberi che non sono potati da 10 anni, le buche, il caos. Cioè ci sono le buche anche ai Parioli e gli alberi non potati? Ma certo. 8 tra autobus che passano sotto, 7 linee tranviarie, il rumore, l'aria inquinata che arriva da sotto dove bruciano, dalla parte d'Or di Quinto arriva l'aria, tutto sto odore acre. E io ho detto, purtroppo possiamo fare meno di tutto, ma bisogna respirare. Ma c'è riusciamo a vivere in apnea. C'è qualcosa che funziona? Perché io, per esempio, sono andato a guardarmi un dato, no? Mi ha colpito. Per esempio, per i rifiuti, è un altro tema gigante, non solo per Roma, ma per Roma. Hai visto come butta la gente la roba? Così proprio. Ci sono degli incivili che buttano divani, cose, ma lasciano lì. La pigrizia, la maleducazione, la mancanza totale di senso civico. Però io questo sono d'accordo con Alessandro Gassman. Ecco, di responsabilizzare un po' anche le persone. Io ho detto sto dato, no? La raccolta differenziata dal 2012 al 2014 è salita dal 25% a Roma, parliamo, al 43%, quasi il doppio. Cioè in pochi anni sono stati fatti dei passi in avanti nella raccolta differenziata. Dobbiamo arrivare all'80%. Sì, certo. Ma qualcuno se n'è accorto di questo? O no a Roma? Non lo so, non so rispondere perché non ho. Alle volte sì, alle volte invece si accumula l'immondizia. Non si fa bene questo. Poi adesso siamo passati all'eccesso, uno c'ha un tappo de latta, dice oddio, dove lo metto? Con la plastica o col vetro? Perché in questa zona si fa la differenziata, in altri invece ancora no. Perché non si fa in tutti i quartieri di Roma ancora? No, si sta estendendo piano piano. Io ho citato questo dato perché mi domando se a volte non ci sia anche un aspetto emotivo in queste ondate di indignazione sul tema dei rifiuti, perché guardando ai numeri dovrebbe essere migliorata la situazione negli anni, però poi chiaramente a volte conta anche il colpo d'occhio. Alle volte mi dispiace, ma si ha la sensazione che questa città sia abbandonata a se stessa, dove il prepotente o il furbo o il farabutto o chi concute o corrompe, io vorrei anche essere concusso pure io ogni tanto, cioè capisci, fa queste. Io penso che sia ormai il malaffare si sia un po' istituzionalizzato, dalla persona più semplice che dice io ti metto la pratica sopra, dammi 200 euro, a quell'altro che invece fa il grande appalto e vediamo quello che succede. Cioè il marcio capitale c'era già da 30 anni fa. E quindi diciamo questo nome, anche mafia capitale, queste grandi inchieste, non ti, in qualche modo non ti stupiscono? Cioè non è una scoperta che ci sia grossi affari di criminalità? Io ero consigliere comunale, un semplice cittadino, io venivo dalla società cosiddetta civile, infatti poi me ne sono andato, no? Me ne sono andato dappertutto, ma appunto non percepisco vitalizio, mi sono rifiutato, sì. Non voglio gravare sulle casse dei cittadini, sui soldi pubblici che tutti invece arraffano. Mi ricordo che già c'era il grande deficit dell'ATAC. Sì. Che si doveva ricapitalizzare, e dopo invece abbiamo dell'AMA pure, poi abbiamo scoperto lo scandalo dei cassonetti, c'è qualcuno che sta lì, la magistratura ha beccato con le mani nel sacco e l'ha messo, no, agli arresti. Quindi sono storie vecchie, sono storie vecchie, e speriamo che fra un po' se ne parli in maniera diversa. Grazie mille, è sempre un piacere. Affamare la bestia. Citazione gianniniana. Ciao. Si può fare l'attualità anche d'estate. Eccoci qua di nuovo, buona serata a tutti da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. 800 24 00 24, abbiamo appena salutato Enrico Montesano che ci ha dato la sua, diciamo, la sua versione di Roma, la sua cartolina. Oscar da Treviso, buonasera. Ciao Alessio, io sono assolutamente d'accordo con Enrico Montesano. Beh, è una questione di maleducazione tipica italiana, perché ai miei tempi, parlo del secolo scorso, si faceva educazione civica, parlo al Collegio San Carlo a Milano, e ti facevano un mazzo tanto se sgarravi fuori una certa linea di educazione. Di maleducazione però che si accentua nel momento in cui vedi che c'è l'incuria, la trascuratezza, no? Perché ma se sì, vedi... ma è creata sempre da noi, cioè è sempre creata da noi. Io ormai sono 15 anni che sono via dall'Italia, sono a Hong Kong. Sì, però è più facile buttare un sacchetto fuori dal cassetto se già ce ne sono degli altri. Se invece tutto è in ordine, tutto è pulito... Diciamo che sì, qualcuno almeno lo disincentivi. Se tu fai una roba del genere a Hong Kong, ti chiedi una multa minimo di $1,000. Scusa. Cioè a Hong Kong, se butti i rifiuti fuori dal casetto... Sono $1,000. Mille. Sì, sì, e sì. E poi dopo sono telecamere ovunque, ti beccano. Sì. Quindi tale, comunque niente, il motivo della mia chiamata è che io 2000 c'era in pieno casino all'Italia, come al solito, dovevo fare Roma, Roma, Francoforte, Francoforte, Hong Kong, via all'Italia e poi... Lufthansa, e invece ho preso Lufthansa perché l'Italia non si è schiodata da Roma. In che senso non si è schiodata? Non è partito il volo? Non è partito il volo. Per un'assemblea sindacale? No. Sì, naturalmente, al momento, giuro, al momento. Hanno fatto per motivi, per già stati di licenziamento o delle sospensioni, non so, qualcosa del genere. Era il pieno casino, anno 2000. Allora ho preso Lufthansa fino a Francoforte, da Francoforte, anziché per la Lufthansa, ho preso il Cathay Pacific, ho incontrato mia moglie che era capo steward. Però non era tua moglie in quel momento lì, ha incontrato quella che sarebbe diventata. Sarebbe diventata 6 mesi dopo. Ah, così in 6 mesi vi siete sposati? Ebbene sì, sono 15 anni che siamo. Un amore proprio, come si dice? È stato a prima vista. Fulmineo, sì. A prima vista. Eh sì. E lei era tedesca? No, è cinese. Ah, cinese. Cathay Pacific. Anzi, per essere preciso, è meticcia, è metà cinese e metà caucasica, quindi questo belloccio, via. I complimenti alla moglie ci stanno sempre, piccola. Oscar, hai guadagnato tantissimi punti se ti sta ascoltando. Beh, bel racconto, grazie. Diciamo no, che sì, insomma, da quel momento lì poi uno vede le cose anche diversamente, forse o no? Cioè, di fronte a un ritardo, a un treno che non arriva, a un aereo che non parte, forse ricordandosi anche questa esperienza uno dice, beh, insomma, dai, in fondo poteva andarmi anche peggio. Ho conosciuto mia moglie. Grazie, Oscar. Buona serata. Si candida anche lui per vincere il premio questa sera. Beh, sarà per ora è un bel derby tra lui e Pietro, quello che ha conosciuto la moglie in un porto della Grecia. Però mi sembra che Pietro sia in vantaggio perché è una storia ancora più avventurosa quella lì. Angelo da Firenze, buonasera. Buonasera a lei. Sì. Prego. Angelo. Io sono un piccolo palloncino di tiro da 44 anni. Sì. E quindi giro d'Italia in lungo e in largo, sì, un po' tutto. Fa il camionista. Angelo, lo sentiamo male. Aspetta, proviamo a ristabilirlo perché non si sente niente. Andiamo con Manfredo da Firenze. Sì, buonasera, ciao. Ciao, buonasera. Scusa se ti do di tu, ma ti sento sempre. Sei uno di famiglia ormai, e come tutta Radio 24 del resto. E, no, io volevo intervenire sull'assessore leghista di Torino, no? Consigliere comunale, sì. Consigliere comunale. Quelli che hanno tolto il tappeto, lo ricordo, esatto. Perché magari qualcuno allora, un'ora fa non ci ha sentito. Non volevano fare la preghiera con islamici dentro il palazzo del comune. Esatto. Quando ha detto che si poteva prendere un pulmino per portarli alla moschea, sì. Mi immagino che se il comune l'avesse fatto, avrebbero fatto un'interpellanza per gli sprechi di portare... Questo è possibile. E poi diceva ad un'altra cosa, che questa cosa è quella che mi ha convinto a telefonarvi, ed è questa, cioè lui ha parlato della laicità delle istituzioni. Allora, perché la Lega è una di quelle forze che di fronte a tutta una serie di persone atee o laiche come me, sì, che vorrebbero togliere i simboli religiosi, sono assolutamente contrari. Cioè, questa era chiaro, è una provocazione bella e buona quella che hanno fatto loro, solamente perché erano musulmani. Probabilmente se a posto di essere musulmani fossero stati degli ebrei o dei buddisti, non avrebbero detto niente. Sì, questo è possibile che ci sia stato trincerarsi dietro la questione della laicità. Io quando vedo quando in realtà non era proprio così, i tribunali con il crocefisso, le scuole con il crocefisso, cioè, allora dov'è la laicità dello Stato? Cioè, lo Stato deve essere laico di tutti, confessionale. Beh, in questo caso si parlava proprio di pregare, non è usuale che si faccia una preghiera dentro un comune, in effetti questo va detto, cioè non è che ci sono cappelle per pregare anche per i cattolici dentro dentro un palazzo comunale, non credo, non mi risulta, forse magari da qualche parte anche sì, chi lo sa. Grazie Marco, buona serata. Titoli della 7. Renzi dribbla la questione romana e parla di tasse, un nuovo impegno, far scendere quelle sulle imprese in 2 anni al 24%, ben sotto il livello attuale, 7,4 rispetto a oggi, ma sotto Germania, Francia, Spagna. In 5 anni la pressione fiscale complessiva calerà di 50 miliardi, così il Premier si tiene lontano in queste ore dalla vicenda della capitale. Perché il sindaco di Roma, Marino, ha cambiato la giunta con 4 nuovi innesti, tra i quali parlamentari, Causi e Esposito. Promette novità all'amministrazione cittadina e prova a bloccare il tormentone sullo scioglimento del Consiglio Comunale. Il sindaco glissa sulle polemiche con Renzi e chiede al Premier di giudicare il Campidoglio dai fatti. Il Senato ha votato la fiducia al decreto enti locali che contiene le discusse norme sulla sanità, che non contengono tagli, assicura il governo, ma solo una razionalizzazione che vale 2 miliardi e 350 milioni di euro. Ma questa è già stata d'accordo, decisa con le regioni, si sottolinea, ma sono proprio le regioni a protestare, a dire no a possibili tagli lineari delle spese. Tensione tra Italia e Svizzera per i lavoratori frontalieri. L'ambasciatore elvetico a Roma è stato convocato alla Farnesina per le ultime misure introdotte dal Canton Ticino su libera circolazione e imposizione fiscale, misure che per Roma sfavoriscono i 60.000 lavoratori italiani che quotidianamente attraversano il confine per lavorare. Arriva la solidarietà di Stati Uniti, Alleanza Atlantica, alla Turchia nella lotta contro il terrorismo. Erdogan conferma l'impegno di Ankara contro l'ISIS, ma anche contro le milizie curde del PKK, con le quali spiega non può continuare il processo di pace in questa situazione. Allerta il paese per possibili attentati sui mezzi pubblici. La straordinaria impresa di Tania Cagnotto, la trentenne tuffatrice azzurra, dopo 3 argenti e 4 bronzi, conquista il suo primo oro mondiale. La vittoria in Russia nella gara al trampolino da 1 metro, dove la Cagnotto ha preceduto le solite cinesi. E ora punta alle Olimpiadi di Rio 2016. Si può fare. L'attualità anche d'estate. On the beach, sotto il sole la pelle brucia, sotto la luna ancora di più. Quando fuori flexi Superman, senza fare love non si può stare. Oh baby, beach on the beach, feel the Tre uomini al vanno a caccia, gli occhi neri e gli occhi blu. Quante signorine very nice fanno uscire pazzo tutti i boys. Ma state qua, you know, per farci innamorare ad ogni età, you know, frenare un poco e poi lasciarsi andare, you know, in fondo sai che quando torni back alla città tutto finirà. Mannaggia. Buona notizia estiva, ma anche una buona notizia sul fronte del, insomma, del creare lavoro, occupazione in un'Italia fotografata ieri dal Fondo Monetario Internazionale, che dice ci vorranno 20 anni per tornare ai livelli occupazionali pre-crisi. Speriamo che non sia così, perché sentite che cosa si sono inventati. Tre giovani ingegneri marchigiani tra i 25 e i 29 anni hanno fondato una startup che si chiama Smart Beach, che produce ombrelloni intelligenti che sfruttano l'energia solare per fare diverse cose, e noi abbiamo qua uno di loro. Ciao, buonasera, Fabio Traini. Buonasera, ciao, grazie per l'invito. Allora, fondatore insieme ai due fratelli Daniele, sì, e Cristiano, Daniele Ascani, Cristiano Ascani di Smart Beach. I vostri ombrelloni stanno già a San Benedetto del Tronto, intanto? Sì, li abbiamo provati, li stiamo testando nel nostro territorio, che è San Benedetto del Tronto. Bene. Siamo leggermente allargati a Porto San Giorgio, e quindi diciamo che la zona locale ci sta dando una grande mano per il test, per la diffusione. Abbiamo trovato un grande appoggio dal punto di vista delle risorse locali. Avete trovato risorse, avete già fatto dei passi in avanti, perché se ho capito bene a settembre è quasi sicuro lo sbarco anche all'estero. A Antigua sì, abbiamo un bel contatto ai Caraibi, ad Antigua, sì. Dal 2016 uno già chiuso con la Thailandia. Ah, e Ibiza lo stiamo chiudendo, siamo fiduciosi insomma che andrà a bocchi. E cosa fa il vostro ombrellone? Cosa quello che abbiamo progettato noi è un device che si installa sul puntale dell'ombrellone, è tutto alimentato dal pannello solare, totalmente reversibile, sì. Che fa due cose: fa aprire automaticamente l'ombrellone, quindi va a alleviare tutto quel discorso del bagnino, che la mattina deve aprire gli ombrelloni. Perché in effetti io mi ci sono trovato, scusa Fabio, mi ci sono trovato quest'estate un paio di volte, e se non sei bello robusto e allenato non lo apri l'ombrellone. Perché? Lo dici a me che sono stato bagnino per 3 anni, tutte le mattine vedi. Dovevo aprire 120 ombrelloni e tra un'impregazione e l'altra mi dicevo, può essere che nessuno ha inventato qualcosa. Perché tu hai unito quindi la forma, tu sei ingegnere, sì. Anche tu. Sì. Quindi hai unito la tua formazione con questo passato da bagnino. Esatto. Vedi che fare lavoretti estivi serve. Ma qualcosa serve. La esperienza si porti sempre dietro. E poi quindi... insomma, una volta brevettata questa apertura, siamo chiesti, avevamo comunque energia a sufficienza per fare altro. Quindi abbiamo detto, che facciamo? Il più grande problema di oggi, questo piccolo ovviamente, è caricare il telefono. Sì. Dunque un iPhone. Perché tutti sono sempre lì che cercano prese a tutte le parti. Avevamo corrente, abbiamo messo la presa così. E quindi il nostro ombrellone, oltre che aprirsi, carica anche qualsiasi device, quindi sia un tablet, un ebook reader che un telefono. Sì, e poi ho letto che con un'app si può anche ordinare da bere, poi, volendo. Sì, però abbiamo fatto una terza cosa, che è una web app, quindi non serve né un'app né nulla, per poter ordinare direttamente sotto l'ombrellone. Quindi fai una fotografia direttamente all'ombrellone, è loggato in automatico nella struttura, ti carica il menu e 25 secondi e in ordinazione. Questo per le spiagge, questo per le spiagge più grandi, cioè le spiagge sì, un po' più attrezzate, più grandi. Perché lì in Adriatico le spiagge sono già abbastanza lunghe, no? Sì, cioè abbiamo delle zone che sono parecchio profonde, viaggiamo 150-200 ombrelloni tranquillamente a mezzo del fondo. E avete trovato per fare tutto questo dei fondi? Cioè siete riusciti a farvi finanziare? Dal punto di vista economico abbiamo investito noi, però sì. Abbiamo trovato parecchio appoggio dal punto, soprattutto di vista degli industriali locali. Faccio un esempio, lo stampo per l'involucro, una cosa sempre molto costosa. La ditta che ce lo fa senza alcuna garanzia, e guarda ragazzi, non vi preoccupate, ce lo pagate a settembre, vi diamo una mano. La stessa cosa per la società che ci ha fatto la web app, ci ha aiutato a svilupparla, cioè guarda, sì. Non vi preoccupate, ce lo pagate in più rate, senza alcun tipo di garanzia, perché comunque una startup di per sé non può fornire garanzie economiche. Quindi devo dire, non abbiamo avuto fondi, accesso al credito dalla banca, però in compenso tutti, insomma, le strutture locali ci hanno aiutato. Quindi tu ti definiresti comunque soddisfatto di come diciamo, le imprese, le banche hanno accolto la vostra idea? Non avete trovato porte chiuse in faccia? No, porte chiuse in faccia no. Anche alcune banche ci hanno detto di sì per un eventuale finanziamento da settembre in poi. Meno male. Quindi no, diciamo, noi siamo stati abbastanza fortunati in questo senso. Altre idee per il futuro? Immagini di far questo? Abbiamo un'altra in cantiere che stiamo sviluppando, sempre per quanto riguarda la spiaggia. Vorremmo testarla l'anno prossimo, sempre al San Benedetto del Tronto. Quindi lavoriamo sui lettini. E quanto costa? Ecco, vedi, quanto costa intanto, diciamo così, magari qualche gestore di stabilimento balneare ci sta sentendo, magari deve cambiare gli ombrelloni perché sono vecchi. Quanto costa? La carica USB, la cosa non deve andare per forza insieme, posso anche essere venduti tutti i prodotti separatamente. La carica USB, che è il nostro prodotto di punta, quello che più piace, sì, vendiamo a 29 euro ad ombrellone. È installabile direttamente dal bagnino, quindi non c'è nessun tipo di manutenzione. Cioè, ma compresi i pannelli fotovoltaici? Tutto, noi abbiamo un involucro chiuso che si installa direttamente sull'ombrellone, ma è proprio un'uscita e riavvita, quindi è proprio un'operazione semplicissima che può fare qualsiasi bagnino. Sì. 29 euro, non so giudicare se è tanto o se è poco, questa è la cifra. Vabbè, insomma, esatto, l'abbiamo detto. Ognuno tra le sue, esatto. Comunque, un po' di mercato ce l'avete perché già avete avuto qualche contratto. Avuto complimenti. Guarda, ti dico, siamo andati in overbooking, nel senso che abbiamo avuto più. Noi non ci aspettavamo, no, degli ordini, sì, così grandi, quindi alcuni siamo stati costretti a dire no perché comunque non eravamo più in tempo per poter servire come meritava. Per ora siete solo voi tre, diciamo, che siamo lavorano in questo impianto. Non è che tre, immaginate di assumere qualcuno. L'idea è allargarsi assolutamente. Stiamo mettendo in piedi una rete vendita per l'Italia, quindi cercare di coprire le regioni principali con alcuni agenti. Noi siamo sempre sul campo, quindi sì, assolutamente sì. Complimenti. Grazie. Buona estate, in bocca al lupo. Grazie mille. Smart grazie. Beach, bravi, ciao. Traffico. Si può fare. L'attualità anche d'estate. E allora c'è ancora uno spicchio di trasmissione per intervenire in diretta, cari ascoltatori. Giovanni da Verona, buonasera. Buonasera, signor Alessio. Eccolo qua, prego. Allora, io volevo ribadire a quel signore che ha detto che lui va a donare il sangue e ha sempre le analisi. Sì. Fatte tutto. Beh, io un modo per risparmiare, perché in effetti non le paghi, insomma, le fai ma non le paghi, sì. Ecco, io invece non ho più donato il sangue perché quando è stato ora un mio amico ha dovuto avere bisogno di sangue, sì, ha dovuto pagarlo per intervento di sua figlia. Io da allora non ho più donato il sangue. Cioè, un suo amico che si è trovato ad avere bisogno... Di sangue era un donatore anche lui, quando è stato ora a operare sua figlia perché aveva bisogno di un intervento, sì, con sangue. Forse aveva un sangue particolare, cioè di quelli rari? Non lo so, io quello mio lo posso dare a tutti, sì, lo posso dare, quello mio, lo ricevo solo dal mio. Però io lo posso dare a tutti. Però mi scusi, Giovanni, cioè, per un caso, chiamiamolo come vogliamo chiamarlo, di mala sanità o di, non lo so, insomma, di mala sanità, ecco, nel quale il suo amico con sua figlia si è trovato nei guai per il sangue. Però è un caso, cioè lei non dona più in assoluto, magari ad altre situazioni che invece avrebbe potuto far del bene. Mi sembra una ripicca un po'. L'ho ritenuto una roba un po' non giusta. Non giusto. No, certo, e allora certo, ho detto. Non era giusta. Lei non l'ha mandata giù fino ecco, al punto di non donare più il sangue. Va bene, sì, ecco, è la sua storia. Grazie Giovanni, buona serata. Buona serata. Stefano da Bolzano. Pronto? Prego Stefano, tocca a lei. Ah, buonasera. Io volevo riallacciarmi a quel discorso del signore che è andato alla serata di bolle alle terme di Caracalla. Sì, sì. Ecco, niente, e lui ha parlato giustamente che c'è stato questo ritardo nell'apertura dei cancelli. E niente, volevo dire che se ci fosse stato un dirigente o comunque un responsabile serio, il giorno dopo sarebbe andato dal custode a chiedere delucidazioni in merito, e per poterlo anche, nel caso che ci fosse stato un atto di negligenza, riprenderlo, no? Sì, cioè, redarguirlo, chiedere spiegazioni, esatto, certo. Con questo io volevo dire che in Italia bisognerebbe avere un pochettino la paura di perdere il posto di lavoro, no? Sì. A prescindere dal discorso dell'articolo 18, che voglio dire si sono scritti libri, cioè bisognerebbe un attimino che tutte le persone iniziassero un attimino a responsabilizzarsi da soli e dire sto facendo bene, sto facendo male, cioè ci vorrebbe un attimino quella paura. Ah. È una faccenda delicata, però, perché è vero che quello che lei dice, che se non c'è un disincentivo, se non c'è una qualche paura, no, di essere sanzionati, insomma diminuiti in qualche cosa, diciamo che il rischio è che uno continui a far male senza diciamo, senza colpo ferire, però sappiamo d'altra parte che ogni volta che si mette a rischio il posto di lavoro si sa che ci potrebbe essere qualche abuso, no? Se ne abusa, perché magari io licenzio uno perché mi sta antipatico, e quindi è sempre una cosa difficile da gestire. Però io sono d'accordo con lei, diciamo che la bilancia è tutta spostata da un certo lato, no? Sì. Vuoi col discorso anche dei sindacati che addirittura riescono a volte fare... è vero, a volte è difficile mandare via anche qualcuno che ha truffato con sentenza definitiva del tribunale un posto di lavoro portandosi a casa attrezzature o cose, rubando eccetera, però poi ho letto di storie di questo genere, alla fine trova un giudice che per un qualche motivo poi magari lo rimette al suo posto, e succede anche questo spesso nelle pubbliche amministrazioni, non per fare il qualunquismo, ma è vero che accade questo e non va bene. Stefano, ha ragione. Perché dopo viene fuori anche sempre il discorso, lo stile italiano è questo, sì. ma lo stile italiano non è questo. Ci vuole un po' di severità, via, esatto. Diciamola così, sintetizziamola così. Grazie Stefano. Va bene, ok, grazie a voi. Buona serata. Non sta arrivando più nessuna chiamata sull'ingaggio di questa sera per il gioco, cioè per le vostre disavventure estive, disavventure nei luoghi di vacanza, durante i trasferimenti, aerei, treni, traghetti, che a volte possono anche portare cose così positive da ricordare, simpatiche, non sempre dei drammi, insomma, speriamo, perché purtroppo continua a capitare. E adesso tra poco poi diremo, a giudizio insindacabile della redazione, si può fare, chi tra le telefonate di questa sera si porta a casa la mini guida di Expo. C'è ancora comunque qualche minuto per fare un altro racconto. Franco da Brescia, buonasera. Sì, buonasera. Io stavo riflettendo prima. Sì? Sul discorso dell'inciviltà romana o comunque italiana, sì. Però mi sembra che neanche gli stranieri scherzino quando arrivano da noi, gli cadono le inibizioni, si mettono anche loro a fare un po' di casino. Sì, oggi c'era un'intervista ad Aso Rosa che diceva al professore, no, emerito, eccetera, eccetera, che diceva gli americani c'hanno poco da dire, vanno in giro a pancia nuda a mangiare sdraiati sui gradini dei monumenti romani. Cioè, è vero. Contribuendo al degrado. È vero, capito. I tifosi olandesi sì, nella famosa sì, partita. Sì. Basta vedere anche l'inciviltà c'è ovunque, diciamo, no? Questo sì. Però sembra che quando arrivano in Italia, porco cane, gli cade ogni inibizione, si sentono quasi autorizzati a fare quello che da loro. Sarà perché noi siamo un po' permissivi su tutto, ecco. E siamo i primi, diciamo, a calare le braghe su questo aspetto qua, no? Diciamo, questo mi sembrava di doverlo dire. Vabbè. Buona serata. Grazie. Auguri, buona serata. Marco da Firenze. Ciao. Marco. Sì. No, volevo intervenire quello di prima che l'avevamo mollato, no, perché Marco non si sentiva. Ancona, però va bene lo stesso. Ah, allora abbiamo sbagliato noi. Va bene, problema. Marco, sempre di Marco si tratta. Io, sì. Guarda, io capito molto spesso a Roma e quello che vedo, mi ricollego un po' a quest'ultima telefonata, vedo la gente che nel momento in cui ci sono due cassonetti pieni prende la sua bella busta, la butta per terra, non si limita, non si spreca a fare 50 metri per mettere la busta nel cassonetto vuoto. Sono uscito di casa, il cassonetto è pieno, lo butto qua, ormai non è più un mio problema quella spazzatura, quando basterebbe fare 50 metri perché c'è un cassonetto vuoto. Questo sempre lo vedo. Vabbè, gente, non che sempre, abbiamo dai, detto non sempre sì, va, c'è io, qualcuno che lo fa magari costantemente zona, sì, ma poi soprattutto nel momento in cui li riprendi non è che ti dicono hai ragione, impartono gli insulti, sì. Un altro caso invece a Roma che vedo spesso sono i Rom che con il passeggino con lo scatolone sopra hanno il rampino, vanno a rovistare nei cassonetti a cercare che ne so dal ferro o qualcosa che gli può servire, un vestito, e quello che trovano lo prendono, ma se aprono un sacchetto o qualcosa il resto va a finire fuori, non è che ovviamente rimettono a posto. Quindi insomma la situazione vedo che sì. Andando spesso a Roma da vari anni è netto peggioramento, mi rendo conto ogni volta che vado, che mi sembra insomma che la cosa stia. Va bene, quindi quella cifra che dicevo io di un aumento della raccolta differenziata dal 23 al 40, dal 25 al 43% negli ultimi tre anni non è, in qualche modo non è pervenuta, insomma a me non appare, c'è ma non si vede, probabilmente perché il problema dei rifiuti è talmente più grosso che non basta questo passo in avanti che pure sono stati fatti, stando almeno alle cifre ufficiali, bisogna farne tanti altri passi in avanti. Marco da Firenze questa volta c'è? Ci sono? Ci siamo. Buonasera. Eccolo, buonasera. Buonasera. Io volevo fare una cosa. Sì. Io ho sentito un po' la trasmissione stasera quasi tutta, sì. E a un certo punto si parlava dei due consiglieri comunali di Torino, del Torino. Comune di Milano, no, che hanno spostato. Di Torino. Di Torino, scusate. Dopo pochi minuti è intervenuto il telegiornale del sette di Radio 24. Ma è una cosa pazzesca quello che ho sentito, cioè la descrizione che ha fatto dell'evento il giornalista, cioè lo speaker, proprio la scritta comunque, era, non dico faziosa, non voglio entrare in merito. Non l'ho sentita perché eravamo in pausa, non mi metta in difficoltà. Cosa ha detto lo speaker? Ma se lo risentite, sì. Si usano dei termini, i due hanno fatto irruzioni, è stato detto che era stata la stanza adibita a luogo di preghiera. Cioè, l'informazione per conto mio non si dovrebbe dare in questo modo. Poi, vabbè, la stanza era stata adibita a luogo di preghiera, nel senso che era stato steso un tappeto. Questo si vede anche dalle immagini che si sono, diciamo, filmati da soli i due consiglieri leghisti. Si vedeva, c'era questo tappeto in terra, era stato adibito a luogo di preghiera perché era stato previsto che questi 90 invitati andassero a pregare lì. Dopodiché poi chiamarla irruzione, forse lei dice che non bisognava usare quella parola, cioè l'ha fatti passare per irruzione pazzesca. Io sono non voglio, quindi non so la verità, quindi non posso giudicare, sì. Però dare una notizia con quel tono, vabbè, mi sembra già che si vada in una direzione, ecco, questo volevo dire. Grazie Marco, grazie. Prego, grazie, ciao. buona serata. Dove andiamo? Laura da Como, buonasera. Prego. Buonasera. Niente, io volevo intervenire prima quando quel signore due o tre interventi fa, sì, parlava della rimozione del crocifisso dalle aule in base poi a questa richiesta, adesso non l'ho seguita tutta, di quel comune che ha dovuto, che voleva spendere un tappeto per far pregare i musulmani. A me sta benissimo, guardi, io ho 75 anni, sono apertissima a tutto, io sono cattolica, credente e praticante, sì. Mi dà fastidio che noi come diciamo come Stato ci dobbiamo diciamo adeguare a tutto quello che ci impongono gli altri, mentre noi andando in un loro stato dobbiamo mettere il burka, non il burka ma l'abito nero. Vabbè, questo si chiama essere noi democratici e loro meno democratici, però esatto. Ma, quindi è un vanto per noi, dovrebbe essere un vanto per noi. Sì, infatti per me è un vanto, sì. mi sembra comunque che se io dovessi andare a lavorare, che ne so, a Riyadh, io non posso andare in un supermercato perché, no, solo, perché devo essere accompagnata da un uomo, o comunque non posso essere assunta in un supermercato, a parte a 75 anni, ma non posso essere assunta perché assumono solo uomini, sì. È una cosa totalmente diversa, ma quello non c'entra. Su questo siamo meglio noi, non c'è dubbio, io sottoscrivo, però dobbiamo continuare a fare così, secondo me, anziché a snaturarci, cambiare noi. Grazie a tutti, grazie agli ascoltatori. Vince Pietro, non mi ricordo la città da cui chiamava, la guida a Venezia, Pietro da Venezia, per il suo racconto sulla disavventura estiva, la guida, la mini guida di Expo al Sole 24 Ore. Grazie a tutti, Andrea Piana, Cristian Goldoni, Riccardo Buccero, Leonardo Siligato in redazione e il grande Paolo Corleoni in regia. Ciao a tutti, a domani, adesso Maurizio, ciao.